vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici? Io ci andrei volentieri. La palla, non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ma ce vado io, ma ce vado io. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Nicola Monza, vai Nicola, vai. Senti, sì, una domanda per il tuo collega. Sì, eccoci sì, vai, sentiamo. Senti, visto che questa telefonata si parlava un po' di raccomandati, o sbaglio? Quale questa che avete mandato in onda adesso, si parlava anche, sentivo, di non raccomandati. Non mi sembra di raccomandati. Non mi risulta, prego. Ok, perché ho accostato in macchina per parlare senza viva voce, quindi mi sono perso qualcosa. Vai. Ma la cosa è questa. In questo paese ci si inizia ad abituare un po' a tutto. Io non riesco ad abituarmi alla raccomandazione, al raccomandato. E dunque? Allora voglio chiedere a Parenzo. Eccoci qua, sì. Tu te la ricordi la tua prima raccomandazione che ti ha permesso di iniziare questo lavoro che fai malissimo? Cioè, quello che voglio dire è questo. Allora, hai avuto, no, voglio finire, scusami, prego, voglio finire. Prego, intanto diamoci del lei, intanto hai diamoci avuto del lei da tuo perché padre, non ci conosciamo. Dalla tua, da qualche membro della tua famiglia. Mio padre. Un'agendina, sì, da tuo padre. Un'agendina nera con i numeri di telefono che dovevi chiamare? Dunque. L'hai avuta o no, Parenzo? Ma perché parli di questo? Non ho capito, Nicola. Tu pensi che sia un raccomandato? Aspetta. Fa l'avvocato. Nicola, no, facciamo... E non ha nulla a che vedere perché con il lavoro che faccio io. Sono disgustato dalla gente come Parenzo, e non parlo di Cruciani, sono costretto Cruciani a querelarla, un residuo di talento ce l'ha. Tu non devi stare lì e tantomeno in televisione. Sono perché costretto, sei negato. Io sono costretto. Negato. Non sei televisivo, non sono sei radiofonico. Ma questo sei non lo decide lei. La merda. Ma questo non lo decide lei. Ma questo non lo decide lei. Ha capito? Ma questo non lo decide lei. Lo decide il cazzo. Allora la domanda è forte, chi sei te vero la ricordi forte la tua prima raccomandazione? No, perché non l'ho mai avuta, brutto imbecille. Siccome te non ho mai avuto la raccomandazione, il libricino nero. Non mi hai dato nessun libricino nero perché mio padre fa un altro ancora mestiere. Imbecille, fa un altro mestiere mio padre, brutto imbecille. Aspetta, che non sei Nicola, altro. Perché pensi che sia raccomandato? Fa non ho capito. Avvocato, non fa aspetta il giornalista. Nicola, perché pensi hai che capito sia raccomandato? Il signor Parenzo. Ma no, si becca una querela 19-24. Abbassato. Allora, per una questione no, molto subito, semplice. Per una chiamo l'avvocato in diretta. Ma non c'è problema. 19-24. Il libretto nero. Ma il libretto nero se lo deve sopra mettere nel culo deficiente, perché non esiste non nessun libretto nero. Sopra. Ma non chiamo, io chiamo aspetta, l'avvocato. Aspetta un attimo, che chiami sopra? Ma perché io è un imbecille? Ma mi parli sopra? L'ospite, lei è l'ospite del buco del culo. Parenzo, devi stare zitto. Ma lei deve io sono io sono pagato per parlare, quindi lei va no, a fare in culo, ha capito? Fermi! Ma lei ha ma chi l'ha detto? Scommette niente, che non parla. Non aspetta, ce la fa. David, fermo un attimo, scommette, mi fai parlare fa con questo non signore. Voglio non capire perché fa sei perché secondo lui saresti raccomandato. Vorrei che voglio capire. Mio padre allora, fa perché l'avvocato. Vabbè, questo non l'hai detto, l'hai detto, fammi e sentire. Lo sai anche tu, Cruciani. Sì, assolutamente, ma non sei raccomandato, infatti, secondo me. Che ti devo dire? Mettigli il guinzaglio un attimo. Ma non c'è bisogno di guinzaglio. Posso darle il consiglio? Mettigli il guinzaglio, che tanto è piccolo. Basta un guinzaglio di un gatto. Posso consigliarle di tornare a casa e fare posso una sorpresa parlare a sua moglie? Posso consigliarglielo subito di tornare velocemente a casa, di fare una sorpresa alla sua adorata mogliettina? Posso rassicurarla di questo? Nicola, sì, allora dimmi perché sì, raccomandato. Quello che troverà. Dimmi perché allora, sarebbe raccomandato. Te lo spiego perché raccomandato, Nicola, perché rappresenta, Parenzo, Nicola, il sì peggio di questo paese. Vabbè, e anche può il cancro essere, ma di questo adesso paese. Il cancro che anche rappresenta 26, la parte reato più malata di questo 19-24, paese. Perché lui non ha nessun talento per la radio. Ma che nessun ma tutto per il giornalismo. Ma non lo decide lei. Fa cagare. Ma vabbè, non lo decide lavora. Lei. Ma non quando lo decide. Anche lei vive. Di giornalisti bravi, anche lei è capaci, vivo, capito? Con un fascino, anche con un carisma che non riescono a fare un cazzo in questo avvocato, paese. Avvocato. Perché? Eccolo perché qua. Non hanno avuto il libretto per... nero che gli ha dato suo padre. Cosa cazzo è sto libretto nero? Ma mio padre fa l'avvocato, non ha nessun libretto nero. E tu sai benissimo di cosa parlo. Avvocato, avvocato trucco, tu hai avuto diretto, il libretto nero con i numeri lei da chiamare. Ha avuto una tara nel cervello. Chiamo lavori. L'avvocato in diretta, no, 19:24. Lo sto chiamando. Lo sto chiamando. Nano, casa. Perfetto. Devi cioè, andare a fortunato casa, Parenzo. Lascia il posto alle persone capaci. Ma perché ti sei fissato allora, con questa cosa, Nicola? Primo, scusami. Primo. Ascolta, io mi fisso con quel cazzo che voglio. Ho sì. telefonato per dirti quello che pensavo. Sì. Cruciani, non ti piace? Sono sì. cazzi tuoi. Sì, Nicola, ti sei sfogato adesso. Cruciani, non ti piace? Ti ma difendilo. Ti sei sfogato. Ma difendilo sto cazzo di cane che hai 19, vicino. Come ma hai detto? Difendilo. Cane, 19:27. Senza il tuo programma. Non è un cazzo. Ti sei sfogato, no? No, ti sei bene, sfogato cioè, tre reati commessi senza nessun valore, capisci? Ma questo chi lo decide? Tu lo decidi? Chi lo decide? Tu? Chi lo decide? Il pubblico tu? Chi allora, lo decide? Io voglio una risposta alla mia domanda. Ma non se c'è nessuna domanda. Il libretto nero ce l'hai in testa te. L'agenda ma con ma, i numeri di telefono perché? Da chiamare. Perché qual deve reiterare il primo numero che ha fatto? Di quale politico? Il numero del suo analista. Il numero del suo analista bisogna fare. Il numero del suo analista. Lavora in un'azienda privata, imbecille. Incapace. Nano incapace. Dunque sono un reato. Ciao Nico, ciao. Fausto dai da Roma, dai. Mi lasci il numero sì, di questo certo, qua per cortesia. Me lo puoi Roma. Lasciare? Sì, grazie. Fausto da Roma, dai. Già allertato tutto l'ufficio legale. Fausto da Roma, vai. Ciao. Tutto. Ciao, ciao. È una battaglia importante, certamente ecco, quella esatto. quella sulla avvocato, sì, ciao. Sì, che quella aspetta, però trucco, parlaci scusami, in privato. Ti metto un attimo in diretta, avvocato, perché no, c'è una sì, sei in diretta, c'è una querela da fare perché alle 19:27 ha chiamato uno dicendo che sono un raccomandato e un cane. Puoi procedere per cortesia, avvocato Trucco? Immediatamente. Grazie. Immediatamente. Grazie molte. Mandiamo tutti gli esatto, grazie avvocato, grazie. Oh, saluti. Ciao, dopo. Saluti, grazie. Ciao. Ecco. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want allora io proverei a chiamare la signora Maria Antonietta Cannizzaro. Che bella caro famiglia che sono, che bella anche famiglia. Lei sempre in camicia nera, sì, sempre bella, in camicia nera. Proprio una bella famiglia. Telefono, sono. Vai. Pronto? Pronto? Sì. Signora Cannizzaro? Sì, sono io. Sono Cruciani, dal Sole 24 Ore, salve. Ah, è Cruciani. Sì, signora Cannizzaro, come sta? Allora, com'è questa storia incredibile? Mi sembra vergognosa questa cosa qui. Però Cruciani, sì. Ogni volta quando voi fate l'intervista a mio marito, con Parenzo, sono interviste brutte. Io un'intervista del genere non la voglio no, fare. Per carità, io le sto chiedendo semplicemente una cosa incredibile questo arresto, ce lo racconti un po'. Ma un arresto che non si doveva fare, perché è un accumulo di situazioni che non erano mai state notificate a Saia. E non sapeva nemmeno che c'erano due processi per lui, ma erano delle cavolate. Ma che condanne sono, scusi signora? Stupide. Una è per calunnia. Pure la polizia parallela c'era anche, no? No, la polizia parallela non c'entra, quello hanno scritto una cosa abusiva, perché Saia è stata assolto in pieno, che ora prenderà anche i danni dallo ma alla Stato. Fine quanto per... sono in tutto queste pene? 3 anni? 3 anni e 10 mesi però che non farà, perché adesso gli avvocati lo usciranno fuori perché cioè, non è così, perché ci sta lavorando. Ma perché lo chiama Saia lei, signora Cannizzaro? Appunto. Allora, perché io devo... Allora, in una trasmissione non lo chiamo Gaetano, familiarmente lo chiamo in casa Gaetano. Ah, appunto. Saia, perché lui è Saia. Pensavo che lei lo chiamasse Gaetano anche... Mezzi spostati. Anche, diciamo, anche... Ecco, c'è Parenzo. Allora, Parenzo, non cominciare, perché ti manda a fanculo. Regalo più bello non mi poteva essere fatto, guardi. Parenzo, ricordati che la galera non si augura mai a nessuno, hai capito? Perché può essere che anche per te ci possa essere, che non esci più, Parenzo, hai capito? Perché vi sto denunciando, guarda. Stai parlando, c'è anche il mio legale che sta sentendo. No, ma io non... stavolta vi denuncio. Perché bisogna arrivare a questi punti, signore? Io le sto facendo delle domande. Semplice... No, però Parenzo non può dirmi che il giorno più bello è che stai in galera, va bene? Vabbè, perché ma ognuno è felice di quello. Perché lui gliel'auguro io alla galera di non uscire più. Voglio di non uscire mai ma più, perché che ha fatto? Ma Parenzo che ha Parenzo fatto? È un pezzo di merda, va bene. Ma perché? Che ha fatto, signora? Ecco, pezzo di ecco, merda. E mi canta Fascetta Nera. Ma che canti? Ma cosa canti, cretino? No, no, non cantare Fascetta Nera, dai. No, non cantare Fascetta Nera. Signora, non ho capito qual è. Canti? Vuol dire che mio marito vuol dire che è come un Mussolini. Guardate che è molto, eh. Perché Mussolini è stato un grande. Sì, vuol sì. dire che Stai è un grande. Tre anni? Se voi dite così, vuol dire no, che ma... Stai è un grande come Mussolini. Ma perché lei non è... Bellissimo. Stai a Mussolini e Mussolini, signora. Ma perché non mi ha detto... Perché allora non mi dice che è fascista? Se mi sta dicendo che Mussolini è un grande. Siamo sei stato grande rispetto ai politici che abbiamo oggi, quasi quello che ha fatto. Io oggi ero all'Euro, ho visto tutto quello che ha costruito, che oggi non si fa più quello che ha fatto lui. Cioè ce ne vorrebbe un altro, dice. È l'Inps, perché prendiamo le pensioni? Grazie a lui, per tante beh, certo, cose grazie dubbio. A lui. Ma scusi, perché lei si candida? Certo che mi candido, alla grande. Faccio la mia politica, ho il mio programma. Però lei ha detto che Mussolini è stato un grande, cioè per lei è stato un grande statista, diciamo, no? Certo che è stato un grande statista. E anche, grande anche, anche Adolfo. I politici che abbiamo, che sono tutti da buttare dentro il tevere. Ma anche il signor Hitler ha fatto cose buone? Cioè lui ha fatto cose interessanti. E che ne so, beh, magari ha fatto cose buone per lei. Perché no? E che ha fatto? Ma ha portato avanti la Germania. Beh sì, l'ha portata avanti, l'ha portata anche al disastro, scusi. Intanto abbiamo portato in galera il marito, dai, fine della trasmissione, su, non diciamo stronzate. Senti una cosa, parento, intanto, dopo aver sentito tutte queste cose qui, il legale sta sentendo, allora il suo legale senta bene, il suo legale ascolti bene. Luigi Fratini, che paura, tremo, ma mi denuncia per che cosa? Signora, signora, un attimo solo. Parenzo, un attimo, Parenzo, un attimo solo. Devo fare una domanda seria. Lei che ne pensa degli omosessuali, signora? Perché suo marito diceva che bisognava mandarli via dall'Italia, per esempio. E a casa loro possono fare quello che vogliono. Che vuol dire a casa loro? Perché non possono uscire strada, scusi. È brutto vedere due uomini che si danno una mano. È brutto. Ma perché è brutto? È brutto vedere Saia in strada, quello è brutto. Ma perché è brutto? Saia in strada. Parenzo, sei offeso per quello Eccolo che dico, scusami. Io mi sa che la querela gliela faccio io, sa, per quello che sta dicendo. Ma cosa fai querela? Perché tu mi stai insultando. Signora, tu sto pensando, il più felice, sono felicissimo che sei un neofascista sia finito in galera, condannato a tre felice, anni, sono molto felice, ma glielo ripeto, Luigi, è il giorno più... Luigi, avvocato! Luigi, ascolta qua! Sono felice, registri, avvocato, sono felice che un neofascista sia stato condannato... Sta dicendo in trasmissione questa sia cosa. Sia felice, sì, io sono felice. Ma ognuno può essere felice sono per quello felice. Che vuole, dai. Sono felice, sta dicendo ancora un popolo in trasmissione queste affermazioni. Ma qual è il problema? Condannato a tre anni, ma figuriamoci. Problema. Il problema è che lei sta diffamando una persona. Diffamando? È in galera? Va bene, adesso gliela passo. La saluto, buona cura. Arrivederci. Pronto? Eccoci qua. Eccomi. Allora, qua. L'avvocato adesso farà chiaramente quello che deve fare. Aspettiamo. Bene, avete chiamato mentre c'era lui. Ma qual è il problema? Che fortuna. Meno male. Sfortunati. Quali sono i mali dell'Italia, signora Cannizzaro? I mali dell'Italia quali sono? Che abbiamo dei politici che non sanno governare, che se ne devono andare via tutti da quel palazzo. Sì, buttati nel Tevere. Che abbiamo sono il male dell'Italia. Poveretto. Buttarli nel Tevere, ha detto lei. Che vuol dire buttarli nel Tevere? Via. Abbiamo una nazione ormai demolita. Infettata, diciamo, no? Possiamo dire infettata. Anche dai gay. Hai visto mai la Bibbia? Ma che c'entra la Bibbia? Dio cosa dice? Io sono credente in Dio. Dio cosa dice? Che dice Dio? Unitevi e moltiplicatevi. Sì. Un uomo e una donna. Io non ho mai visto nessuno nascere da un culo. Scusate l'espressione. Questa è buona, questa però è buona, esatto. Devo dire. Questa e è buona, allora, questa è buona, devo dire, questa è buona. Qualcuno può essere che ci sia qualche caso al mondo, No, mica... non esiste. Scusi, suo marito come si sente? Mio marito lì non ci starà tre anni, perché aspettiamo. Qui è difficile raccontare la storia e tutto, perché con voi non si può fare, non è una trasmissione seria, ve l'ho detto. No, infatti, è una no. trasmissione della Sassi no. Banchi la Avendo volta. Partecipato sì, su il suo adorato marito, sicuramente è così. E infatti ci hanno arrestato un membro del circo, guardi un po', hanno arrestato ieri un membro del circo. Parenzo, che viene no, da lo hanno arrestato, purtroppo non vuole essere più chiamato da voi. Per tre anni e dieci mesi un membro autorevole di questo circo è stato arrestato, tal Saia. Da domani, sì, da domani. Denuncia. Ma denuncia Ottimo. Di che? Di che Ottimo. Cosa? Ottimo. A sole 24 ore a voi. Ma perché cosa? Fare questa trasmissione. Finalmente. Finalmente così ci beviamo pure la signora, dai. 3 chili di arance per cortesia, cioè il fruttivendolo qua un secondo. 3 chili di arance, sì. Ma perché? Forse anche di più. 20 chili di arance, sì, perché ci sta 3 anni e 10 mesi. Signora, ho 20 chili di arance, dove gliele mando? Passato. vado a Faenza, ma tu stai a Roma. Perché sì, se ti vedo per Roma, sai, ci sono tutti dei gran calci nel sedere per tutta Roma. Oh, attento. Un'altra querela, che meraviglia. C'è l'avvocato sempre? Sì, c'è l'avvocato. Ah, sì, c'è l'avvocato, allora. Che tu stai ottimo. Prendendo per il culo, calci, mangiare le arance e queste cose. Calci qua, poco. Nel mi sbatte il telefono culo. In faccia. Ottimo, quindi lei mi dice mi calci nel culo a Roma, perfetto. Sì, certo, tu vuoi portare le arance, ma chi gliele porti? Ottimo, posso dire. Tu sei ebreo, ma io degli ebrei ho stima. Ah, stima lei. C'è da tremare. Dicevano la stessa cosa del 38, sai com'è andata a finire, però? Però è viva. Però è viva. Tremare veramente, no. Perché sei pessimo. No, no, no, no, credo no, che questa no, volta ci vedremo in tribunale. Cioè, no, guarda, se l'avvocato pessimo. È lì, questo se l'avvocato è lì, se... Oh, sì, che meraviglia. Questo avvocato, non è buono. Avvocati, ci vediamo in tribunale. Credo che sulla cremazione ci vedremo molto velocemente, anzi guarda, in tribunale. Guarda, una cosa. Sentiamo, cara. Gaetano Faglia, che mio marito, sono molto orgogliosa. Benissimo, per carità. Per me è sempre un eroe, non ha fatto nulla. Un eroe, certo. Un eroe di che? Ma un eroe di che cosa? Ma quale? Ma perseguitato da chi? È stato perseguitato Berlusconi, idem. Uguale, uguale, proprio, uguale. Identico proprio. Stesso cosa. Peso. Ma stesso... pure non potete vedere neanche a Berlusconi. Ma, perché pure ma scusi, ha detto che va cremato Parenzo, ma non si vergogna. La cremazione, gli ebrei, dai. No, no, Parenzo, non ho detto gli ebrei. Parenzo dovrebbe essere cremato. Ma il suo avvocato, perché il suo avvocato è sempre... È bravo il suo avvocato, però è sempre lì? È sempre lì il suo avvocato, no? Il mio avvocato, per fare il mio avvocato, da domani farò la denuncia. Ma chi? Perché io cosa? Io credo avverrà il contrario domani. Ciao Cannizzaro, la saluto, eh. Andate a fanculo e domani ci sarà la denuncia di Luigi Frattini. Ma meno male. Ma la denuncia di chi? Ma di che cosa? Non ha capito. La denuncio io, signora. Non ha ancora capito. Signora, non ha ancora capito. Ma signora Cannizzaro, io non ho capito una cosa. Beh, perché ma ci manda a fare io. In culo? A me piace. Ma ha detto Frocio che mi vuole cremare. Che dite? Fate schifo. Cosa siete? Fate schifo. Fate mandate schifo. Un po' a fanculo. Sì, e domani ci sarà la denuncia. Ma meno male. E poi ve lo fa vedere. Ma perché cosa? Ma perché cosa? Non ho capito perché cosa. Presa per il culo per quello che vede. Ah, c'è un nuovo reato, presa per il culo. Nuovo reato, presa per il culo. Ah dai, su. Fate schifo tutte e due, andate un po' a fanculo. Facciamo ancora. Sarà già. Sì. Ma perché domani? Ma facciamo oggi, sono oggi, c'è ancora tempo, le questure sono aperte, facciamola oggi, così ci vediamo prima, signora mia. No, dici sì, io durante la faccio sentire la trasmissione. Sì, ecco, glielo faccio sentire. La tratterranno direttamente in questura, signora mia. Se lei ma va e racconta questura, quello che è accaduto, ma se lei racconta quello che è successo, sei la questura. Del popolo signora ebreo, mia, ebraico semmai. Signora mia, signora mia, se lei va in questura, mi dia retta. È qua. Mi dia retta, se lei va in questura e racconta quello che è avvenuto, la trattengono! Mi dia retta a me! Guardi, che se lei. Le faccio la scena. Domani le racconto la scena. Allora mi calmo e le racconto la scena. Ma lì dice: vado in questura a denunciare Parenzo. Bene, allora si pega l'appuntato, si siede e dice: oh, lei è la signora Cannizzaro. Bene, professione, ma io sono neofascista. Cosa vuole denunciare? Ma guardi, ieri ero in radio e ho detto a quel frocio di Parenzo, che è un ebreo giornalista, che lo voglio cremare. Scusi, come dice signora? No, scusi signora, mi aspetta qua un istante. Ma non c'è un verbale da firmare? No, aspetti un istante. Marco, appuntato, vieni qua. Il signore ha appuntato, arriva, dice: scusi signora, mi può seguire per cortesia? Dove? Io devo firmare la denuncia. No, mi può un attimo seguire. La tratteniamo per accertamenti. La tratteniamo per accertamenti. Questa è la storia, quindi vada. Così risparmiamo anche la volante che la viene a prendere a casa, signora. Allora, io vi saluto, vi mando a fare un culo. Domani ci sarà la denuncia. Oh, perfetto. Arrivederci. E risparmiamo che la vengono a prendere a casa. Arrivederci, Cannizzaro. Arrivederci. Affanculo a tutte e due. Sì, arrivederci, Cannizzaro. Come sempre. Cannizzaro che apparenza. Andate a fanculo. A posto, come sempre. Quanto si diverte, però, signora Cannizzaro? Mica molla. Quanto si diverte. Voi rubate i soldi. Sì, sì, sempre. Perché voi siete anche. Pagati inutilmente. Voi state rubando. Sì, questo può essere. E siete pagati anche tanto. Tanto, questo sì, tantissimo. Questo per fortuna anche, certo. Tantissimo. Tutto fin qua è tutto vero. Questo è tutto vero. Tutto vero. Me e il mio legale. Tutto vero, tutto vero, tutto vero, tutto vero. Adesso perfetto. Me e il mio legale. Tutto vero. Signora, se le posso dare un consiglio, adesso non da amico, se lei va alla questura e dice quello che è accaduto, secondo me non le conviene, ma io la sfido. Andate, lo dica forte, lo dica forte. Andate a fanculo. Ma più forte ancora, di più, lo dica. Di più. Più forte. abbiamo trasmesso colloqui con la fascista Cannizzaro. Neofascista. Ragazzi, dai, su, ma come cazzo si fa? Su, come si fa? Poi ha detto anche una cosa grave, cioè, tra le righe e tra le follie, ha detto anche, no... era meglio se venivi cremato, sì. Cosa impossibile, sì, no, perché in tutto questo voleva denunciare me. Per questa è la cosa interessante, no? Per presa per il culo del marito. Sì, in tutto reato questo, di presa per il culo di Saia. Dice, ebreo, cremato, eh? Ma io vado a denunciare. Dico, vada pure, cara. Vada in questura, racconti quello che è accaduto. Vediamo cosa succede. Senti un po', allora hai ragione, quelli che minacciano bello figo sono proprio quattro coglioni. Io non lo minaccio affatto, però te lo giuro, se mi passassi vicino bello fino, non che canta fai? Più, non canta più, perché gli fai? Strappo la lingua, hai capito? Come fai a strappare la sono lingua? Sono proprio quattro coglioni quelli che minacciano, perché le cose si panno, caro, le cose si panno, non si enunciano. Quello è vero, quello è vero. Si panno, hai capito? Questo è vero, io brava Laura, agisco brava. Sempre in prima persona. Io non dico cosa, io brava, non lo so, brava. Hai capito? Io se arrivo a tiro a bello figo, io lo faccio fuori. Hai come capito? Lo fai però fuori? Non lo va, ma non lo so come mi capita, non lo è, fai come fuori, se mi entra un questa... nero, o se mi entra un ex comunicatore in casa, mica chiamo la polizia, che cazzo la chiamo a fare, ma intanto signora, questo mi ammazza. Lei deve capire io lo una faccio cosa. Fuori. Da lei, hai in capito? Sua, lo faccio non... fuori e ma no, sacrificio dell'immondizia da e lei acqua, non mare e un fiume. Da lei non entra nessuno perché anche al potenziale ladro gli fa schifo entrare in quella casa, le assicuro. Lei è salva per questo. Perché senti, lei è talmente Cruciani, ribustante. Sto sentendo una puccia che sta parlando, ti prego. Sì, o parli esatto. Con me, Cruciani, oppure io metto giù. Allora, attaccalo, attaccalo, contestalo. Ma, scusa, ma che tu... cosa vuoi contestare il nulla? È il nulla, lo dicono tutti. Quella stecca lì che sta parlando, sinistra logicamente, lui non lo sa di essere un devastato del cervello, non lo sa di essere un devastato, perché è sinistro. Allora, quella zecca lì devastata non sa neanche quello che dice, perché sai cosa, un'altra cosa? Che lui deve solo guadagnarsi il pane, perché un discorso, quella zecca lì sinistra che è lì alla radio, non lo sa fare. Sì. Non sa farlo. Senti, lui ma... deve solo guadagnarsi il pane facendo il deficiente sinistro. Però... Lores, ma lei ha avuto un'infanzia devastante proprio. Guardi, guardi Cruciani, se io continuo a sentire quella zecca lì comunista, che vuoi fare? Non, vuoi, non ci vuoi parlare? Scusa, non ho capito. Sì, no, dimmi di stare zitto, che ormai è tutto quello che doveva dire stasera. Vabbè, l'ha ho capito. Detto quel cretino. Mi manca, stasera non ho ancora sentito che dica, bene, abbiamo finito, dai, perché chiudiamo la trasmissione. Cruciani, vai a fanculo, Lara. Sei un gran testa di cazzo, Lara. Guarda, quei leghisti che fanno questa cosa alla Cecil Kane sono come te. Tu sei il capo banda di questi bastardi. Tu sei il primo bastardo, ne approfitti sempre a insultare i neri, a insultare i muslim. Sei un bastardo dentro, sei un cretino, bastardo razzista di merda. Adesso ormai sei pronto a fare il vice di Salvini alla Lega Nord. Che cazzo vuoi, bastardo che sei altro? Ma vai a fare il culo, bastardo che sei, Cruciani. Sei una razzista di merda, guarda. Sei una razzista, guarda. Sei una razzista di merda, sei. Bastardo che sei, Cruciani. Ma vado a far futuro, ah. Cruciani, sto nel parcheggio di Maiano Sabina. Quanti froci che ci sono, amico mio! Scusate, ma degli altri due delinquenti di Lodi che sono scappati, non ne parla nessuno? Uno per fortuna è morto, ma andare a cercare gli altri due e fargli fare la stessa fine, no, eh? Comunque mi fa molta più rabbia vedere il gomito tumefatto del povero Mario, che quel rumeno di merda morto ammazzato. Anche gli altri due dovevano ammazzare, ma serenamente, almeno oggi ci sono un delinquente in meno, almeno quello. E lo Stato latitante e colpevole come sempre. Buon pomeriggio. La programmazione di oggi è modificata per lo sciopero di assistenti, tecnici e personale non giornalistico del gruppo 24 ore. La Zanzara. Adesso io devo chiedere a Carabue se è grasso, innanzitutto, caro Parenzo. Cioè, devo chiedere a Carabue, al signor Carabue, se è grasso. Che è stato appena insultato da questo. Beh, dice un grasso negro, un negro grasso. Ma io fossi in Carabue, Carabue, intanto lo querelerei se è proprio così pulito. Ma perché pulito. Non è che uno negro grasso è da querela, dai. Detto, no, neanche quello. Cosa ma si, no, che dai. Cosa fammi si sentire, può dire in più? Fammi sentire Carabue un attimo, dai, fammi sentire Carabue. Sì. E ride Carabue, Carabue, dimmi, Carabue. Io non l'ho capito, sei grasso innanzitutto. Allora, Carabue, spieghiamo, Carabue, chi è Carabue? Carabue è un signore che fa, che fai di mestiere? Io manco il professore universitario fa. Fai il professore? Carabue. Sì, ma chi è? Sono Cruciani, ciao. E Parenzo, ciao caro. Ciao. Che onore. Allora dimmi Carabue, che grande, fai? Il professore... È un docente universitario. Fai il docente Carabue. Certo. Certo. No, allora, c'è un a differenza di quell'imbecille che telefona qua, Carabue è un docente universitario, a differenza di quell'idiota che ha chiamato allora, fino a poco di religione... fa. E tra l'altro insegno diritto dell'immigrazione. Ah, diritto dell'immigrazione. Allora, innanzitutto, diritto dell'immigrazione, sei islamico se non sbaglio, no? No, è di religione. No, sbaglio. Anche sei cristiano, sì, vabbè, sei cristiano. Vabbè, allora, è uguale. Siccome tu hai visto il negro, hai detto sicuramente è un musulmano. Siete dei salami qua dentro. No. Tu e quell'altro. Sì, siccome è un negro, diglielo tutta. Allora sei islamico. No. Cosa fai? Là. Diglielo pure così a questo punto. Allora. Fai il verso della scimmia. No. È un professore universitario. E chi ha a detto differenza niente? Di quell'imbecille lì che ansima come fosse Darth Vader. Malato di asma, eccolo lì. Scusami, ma sei grasso o no, Carabue? Ecco le grandi domande. Sono in forma. Sei in forma. Però tecnicamente sono obeso. Sei obeso o no? Eh beh, tu che dici? E quanto pesi? Vabbè, no, sai, sono anni che non mi metto sulla bilancia, però sarà che mi devo iniziare a controllare. Tu sei un grande teorico dell'integrazione, no? Sei un grande teorico dell'integrazione delle persone che vengono qui, grande teorico. Ora il signor Donato da Varese, nostro, come dire, nostro interlocutore ogni tanto qui alla Zanzara, sostiene invece che tu, oltre ad essere un porco negro, così ti ha apostrofato prima, e non so, Donato, che gli vuoi dire ancora cosa? Digli qualche altra cosa. Voglio no? dire che questo uomo con color cioccolata. Vabbè, che c'è adesso con la cioccolata? Vabbè, quella è la 19:50, altro reato. Dovrebbe un giorno incontrarmi, perché? Dovrebbe un giorno incontrarmi e spiegarmi con la penna sulla carta. Perché? A che cazzo ci servono gli immigrati? Non servono un cazzo. Non servono un cazzo. Lui dice che non servono un cazzo. Carabue, rispondi. Sì, Carabue. Ti regalerò la mia ultima pubblicazione sul diritto dell'immigrazione per fargli comprendere qual è il contributo dell'immigrazione nel tessuto italiano. Capito? Però, ecco, il problema... Donato, vuoi leggere l'ultima pubblicazione? Che non sanno come pagare la corrente, compreso il canone. Che cazzo c'è? Quando l'Italia sta morendo, si devono prendere gli immigrati fondo coglioni! Tutti con un bel decreto di espulsione! Tutti! Ma questa è colpa! In nome dell'Italia! Tutti fuori dai coglioni! Tutti! Questa è la terra italiana! È una terra cristiana! Ma infatti è lui cristiano, ma è cristiano. Ma con 2 milioni di islamici in casa nostra, con 2 milioni poi diventano 3, poi 4, poi 5, amico mio, poi lo so, scusami, ma di sinistra, no? Ci saranno i nipoti di verme schifosa Salvino Renzi, professore, che dirà: papà, come mai che siamo pieni islamici? Non possiamo andare a dove sono le chiese, le rotte, le chiese, le statue le hanno rotte. Papà, il papa è stato ucciso. Perché questo accadrà? Vermi, questo accadrà. Cosa accadrà? Ma non è detto. Crescerà in Italia. Ditemi cosa accadrà. Cosa accadrà? 2, 3, 4. Aspetta, non lo sappiamo. Carabue, che dici? Che c'è bisogno di un intervento sanitario, grazie, secondo te? No, beh, immediatamente mandarsi il 118, perché secondo me io prima o poi mi crepa in diretta. E questo è quello che vuole Cruciani, no, secondo me. No, segretamente. No, dai, ma animarsi così. Lui dice che gli immigrati non servono. Vanno mandati via tutti. Questo dice. Che ti devo dire? Ma sai qual è il problema? Il problema è che queste persone non capiscono veramente il contributo che danno gli immigrati. Ma guardate, ma fossero cioè, solo senza gli immigrati noi saremmo finiti, secondo ma te? Certo, ma non è che saremmo finiti, però scusami, ma i processi di immigrazione. La domanda è precisa: senza gli immigrati saremmo finiti, sì o no? Potremmo andare avanti, sì o no? Che cosa senza gli immigrati? Senza gli immigrati saremmo finiti, sì o no? Ma finiti per che cosa? Che ne so, non potremmo... Ma tu ti rendi conto che anche le pensioni vengono certo. pagate grazie al contributo dei lavoratori? Oh, Donato, senza gli immigrati non potremmo pagare ma le pensioni, hai sentito? Donato. Se fossi un assassino e se fossi violento, io quest'uomo qua lo sgonfierei. Ma no, ma adesso... Ma perché lo vuoi ammazzare? Scusa, ma perché, no, perché lo vuoi ammazzare? 19,53 altro reato, minaccia aggravata. Al disfacimento del nostro paese. Allora, ci sono 5 milioni di immigrati, bellissimo. Allora, se ci fosse un giudice onesto, caro ma purtroppo i giudici onesti non esistono, tranne qualcuno, tranne Maddalena, Paolo Maddalena. Allora, se ci fosse Maddalena, un giudice onesto, direbbe che lavoro fanno questi? Sto lavoro qua! 10 anni fa che cazzo la faceva? Ma scusa, ma questo qua fa il professore universitario? È un professore universitario, signor Carlo. Dove sono i trasporti? Adesso è caduto in mano ai americani. Dove stava il settore dei trasporti? Dove ma sta? Scusami, stavano in mano anche i miei amici. Ma scusa, mi chiamavano i padroncini. Carabue, che fai? Sudamericani. Carabue, che fai il professore universitario? Che va fatto? Va cacciato e preso un italiano al posto. Ma sei italiano, Carabue? Questi qua rovinano il mondo. È italiano, Carabue. Basta stupidaggini. Basta. Sono io, miserabile. Dobbiamo risolvere un caso, caro David, al di là di Radio Calabria, ex Radio Padania, dobbiamo risolvere il caso di Lucia da Pordenone, la nostra puttana, la nostra puttana, come si diceva per Gheddafi, no? Era il nostro figlio di puttana, lei è la nostra sì. puttana, lo diceva, ti ricordi? Lo diceva Borghezio, sì. Gheddafi era il nostro figlio di puttana e dovevamo conservare il nostro figlio di puttana. Qui Lucia da Pordenone è la nostra puttana, quella del camper a Codroipo. Quella che non lavora, l'hanno multata, è una cosa gravissima quella che è successa, una cosa di una gravità assoluta. L'hanno multata perché aveva messo il camper in sosta vietata. Ma messo. No, il camper sta sempre fermo. Lucia? Lucia? Pronto? Sì, Lucia, sì. Cara. Eccola Lucia, qua. Cara. Guarda, non mi chiamare puttana, chiamami studentessa di Bigoli. No, ma come studentessa di Bigoli, amica mia, scusa. Cioè, professoressa di cazzi, diciamo. Sì, si capiva lo stesso senza usare cazzi, però questi... è più chiaro, professoressa... No, era chiaro uguale, ma non importa, andiamo avanti. No, Parenzo, non fare... Allora, Lucia, spiegami quello che è successo, come allora, ti posso aiutare. Ascoltami. Spiegami. Sì. Aspetti che adesso chiamo il direttore sì? napoletano, non vorrei si perdesse questa notizia, scusi, Scusi, Chiamo il direttore del Sole, non vorrei mai che perdesse in Lucia, prima pagina... La puttana di Pordenone, ecco, esatto, non sono vorrei mai. Stata multata. Ecco, non vorrei mai allora, si perdesse questa. Sono arrivati i carabinieri con l'ordinanza del sindaco di San Fior. Aspetta, dimmi il sindaco e me lo inculo subito. Come si chiama? No, il sindaco è della Lega. Io vado è uguale. Tutti la Lega. San Fior, come si chiama? San Fior. Il comune San Fior. Si il chiama. Comune San Fior. Ordinanza. Arrivano i carabinieri. Sì. E mi fanno, signora, lei devo dare la multa. Di che cosa ho deciso? Sì. Non può stare qua. Chi ha detto? Appunto. 100 euro. Il mio magnaccio. Come il tuo magnaccio? Non ho capito. Il mio magnaccio. Ogni sera viene, mi fa la multa 100 euro. No, ma tu col cazzo che paghi, naturalmente. Io ma non pago ma neanche a morta. Preferisco dare 1000 euro a un avvocato che me lo toglie. Allora, questo è molto interessante. Allora, non ho capito. C'è qualcuno che viene lì ogni sera a Codroipo, vicino no, a Codroipo. No, Codroipo a Treviso, quelle parti là. Insomma, non dove stai tu con sto camper? Che non mi ricordo io più. Io giro. Ah, giri col cazzo. Gira pure, sì. Giro. Ah, giri. Adesso non sei più a Codroipo, allora. No, non c'era nessuno, non andava nessuno, infatti. Sto andando a casa. Gira. Appunto, a far niente, come al solito. Ma quanti clienti hai fatto oggi? Ma zero di zero, oggi ma figurati. Oggi ne ho fatti due, buoni. Sì, figurati. Buoni che vuol dire buoni? Buoni? Buoni che significa? Quanti anni? 70, 75? Quanto hai fatto? Come 70, 75? Anni, ma tu fai vecchi, non è che fai giovani. Ma io faccio vecchi, giovani, tutti, eh. No, ma quanti clienti hai fatto oggi? Ma zero, due dai. Buoni. Ma buoni che vuol dire buoni? Buoni vuol dire che hanno pagato bene. Quanto hanno pagato? 1,70 e 1,50. Ma pensate, due disadattati. Ma i prezzi sono diminuiti, caro Parenzo. Ma bisogna, neanche 5 euro, neanche 5 sì. euro. No, 70 e 50. Parenzo, cioè... non ma mi degradare così, signora. Ma non degradare, scusa, perché la tratti così? Non mi degradare, ma Parenzo, sì, ma anche una prostituta di 75 anni. Però... Va bene, ma rispetto anch'io il suo lavoro, ma si figuri. Ma ha ragione, scusa, ma non ho capito. A un certo punto posso sopportarti, Parenzo. Va bene, va però bene. Però quando vai oltre... Va bene, signora Lucia, però abbia pazienza anche lei. Più di quanti anni ha lei, no, signora mia? No, ma non ha nessuna importanza all'età. La prostituta Hai che capito? Si arrabbia, la prostituta nonna che si arrabbia, va bene, benissimo, Lucia. Dai, signora, su. Parenzo, il problema del camper che diventa il buono, problema principale. Ma scusa. Perché io quegli occhi di gufo che hai te li tolgo. Ma quando mai minaccia la prostituta, la nonna prostituta. La nonna, tua nonna vacca. Ma no, no, beh, lei no, poverina, anzi, anzi. Ecco, la tua nonna poverina. Era una grandissima vacca. Ma, che, ma no, assolutamente, come si permette, signora? E allora come si permette parla... lei di dirmi nonna? Signora, lei... No, ah, pensavo si arrabbiasse perché la chiamava prostituta. No, no, signora. Ma a me non mi interessa, potete chiamarmi come volete, ma non chiamarmi nonna. Ma allora è una giovane signora, una giovane prostituta. Nonna. No, quanti anni ha, signora? Vanno in pensione tutti. Anche lei dovrebbe a un certo punto accettare e andare in pensione della sua onorata professione. Ma continui. Perché non vai tu in pensione? E continui a girare Pensa questo camper che finalmente arrivano due clienti che non sanno neanche chi è, bussano alla porta e dicono chi è, magari una prostituta, aprono, vedono la signora anziana, chiudono. No, però torniamo ai fatti. Allora, il sindaco di San Fior, il sindaco di San Fior... Adatto, siccome adesso ti spiego la verità, sì, siccome hanno fatto una caserma a Orsago, sì, e sono in deficit di 2 milioni di euro. Ma adesso che ne sai tu? Si rifanno con la Lucia di Pordenone. Voci di bar. Comunque, siamo alle voci di bar. Allora il sindaco è di Orsago, di San Fior, Godega, Orsago, sì, hanno dato l'ordine ai carabinieri, sì, di prendere le multe a noi italiani. Ma tanto a te che cazzo te ne frega, non la paghi. Ma la a me non mi interessa proprio. Allora io ho detto a un carabiniere, che gli hai detto? Dopo, quando avete pagato la caserma, dovete scrivere con i soldi delle puttane. Brava, molto brava. Questo può essere una soluzione. No, ma è cazzo, è giusto. No, ma è tutto giusto, è tutto corretto. Ma io se lei fosse direttore del Sole 24 Ore, che titolo suggerirebbe per questa notizia a Roberto Napoletano? Me lo dia lei, così non facciamo errori. Mi dica, qual è il titolo per questa notizia? Ma non il puritano, no, ma quale puritano? Chiedo, Parenzo, così glielo passiamo al direttore. Che tu sei il più grande culatore del mondo. Ma adesso questo cosa, perché non si capisce perché deve dire una cosa simile? Non perché è così, tu ma sei il più grande, guarda, quelli che fanno i più grandi, sei una checca. Vabbè. Io voglio dire, una checca. Questi coggi hai fatto 70 più 50, 120, ma giusto? Perché non ha fatto? Scusa, non ho capito. Ma 120 in nero, fatto? Ottimo. 120 in nero, ottimo. Facesse così ogni giorno, 30 ma giorni, diciamo 25. Ma guarda, che io faccio anche di più. Ma quanto fai al mese ormai? Scusami. Ma non ha nessuna importanza. No, non Lucia, basta. Io dimmi, non pago le tasse. A me lo puoi dire, lo so che non le paghi. A me lo puoi dire quanto fai al mese, tutto in nero. Ma non so io quanto faccio. Più o meno. Può darsi che giornate che non faccio niente. Più ecco, sono la maggioranza, infatti, sono la maggioranza. Sì, ma alla fine del mese quanto fai? Io a fine mese pago i miei debiti. Ma quanti anni avevano questi clienti, scusa? Una aveva 50, una aveva 40. 50 e 40, cosa hanno fatto? Servizio completo oppure qualche... No, guarda che io senza guanto non vado. Senza guanto? Gente un che culo c'ha. Non do. Beh, questo è buono. Dettagli importanti da mettere nell'articolo. Un culo proprio. Non do, senza guanto non faccio, baciare in bocca non bacio. Dopo che vanno a ciucciare i cazzi di Parenzo, io non voglio baciare dopo che hanno baciato il cazzo di Parenzo. Cara signora prostituta anziana Lucia da Pordenone, la sua volgarità. Io voglio dire una cosa, però io voglio dire no. Signora? Io dico, e poi concludiamo. Dico una cosa: se uno c'ha i guanti, non fare culo, come diceva la famosa cinese dell'altra volta. Ma, e non ma che ci vai a fare con una? Quanti anni hai? Scusami, Lucia. Io ce l'ho il 60. Ma che uno che ci va a fare guanti con i guanti? Ma no, perché devo dare per forza il culo? Non so io. Signora, io a me io non interessa. Signora, uno io no. Ma non mi interessa. Ma perché uno deve sentire sta roba? Non me ne frega niente. È una porcheria. Ma è una porcheria sta roba. Non me ne frega niente di lei, di quello che fa. Mamma mia, che schifo. Mamma mia, chiudila sta vecchia qua. Basta. Ma che ridi, chiudi sta vecchia, fermi! Basta, chiudi sta vecchia. Sì, ci vogliono altri 200.000 africani in Italia, sì, la birra ormai non la comprano più gli italiani, ci vuole sta gente in mezzo alla strada con la birra in mano, non fare una minchia, e vai! La Zanzara. Allora, io mi sono chiesto, caro David, dove è finita Annarella in questo periodo? Me l'hanno chiesto molte persone, cioè c'è un casino politico, il Partito Democratico, E abbiamo scoperto, l'abbiamo chiamata ieri, vi dico subito questo, ragazzi, questa telefonata è stata realizzata nella giornata di ieri. Abbiamo scoperto che la signora Annarella ha avuto un ictus. Dunque, la cosa è questa, Annarella, con l'ictus però scatenata sul Partito Democratico, caro Parenzo, scatenata. Sentite il ritorno di Annarella, alla Zanzara, scatenata contro, dice che tornerà davanti al Parlamento, davanti alla sede del PD a dare battaglia, non si capisce contro chi, però forse qualche nome lo fa, se non ricordo male da ieri, o no Parenzo? Mi sembra di sì, pronto? Annare, che sei, quello della... Da quello dell'A de dove? So Giuseppe. Come stai? Come stai, cara? Ho aspettato la televisione. Ma come va? Tira campata. Ma come stai? A letto? Sì. Ma che t'è preso? Ha preso l'ictus. Ma non te vedo mai in giro, non te vedo più, ormai non esci più da casa. No, non mi vedi perché sono stata male. Ma dove vai? Stai tranquilla, che te pia un coccolone davanti alla camera, davanti a... Che mi pia? Accidenti, che capia, ma ne lo so di saluti. Ma ho capito, amica mia, poi ti prende male davanti alla sede del PD, là a Nazareno, davanti... Ha visto oggi che casino che hanno fatto? Di portarci da loro, che cazzo vogliono quell'altro? Sono diventati tutti matti. Ma dimmi una cosa, cominciando da Bezzani, da Speranza, da quel poco di D'Alema, che è un fiore da mignotta. Ma perché? Che ha fatto D'Alema? Non lo posso vedere. Fatti i cazzi tu, ha sinistra. Ma scusa un attimo, ma perché tu sei contro la scissione, questi qua che se ne vogliono andare? Ma se ne devono andare subito, D'Alema. Ah, tu dici che è meglio che se ne vanno questi qua? No, questi qua, D'Alema. Vabbè, ma anche Bersani. Bersani e Speranza. Se ne devono... E Cuperlo, che gli ho dato pure il voto. E noi ce racconto, i mortacci tua. Ma veramente Cuperlo resta nel PD, Resta. E non mi frega niente, sei stato al culo. Vabbè, ma adesso che fai tu ancora con sto PD? Come lo vedi sto PD? Quelli che se ne vanno, Emiliano che resta. Emiliano, che ne pensi? Emiliano è il fiore della mignotta. Pure lui. Pure. Guarda, era tanto bravo, c'ha un odio verso Renzi. Io non so, che deve fare questo poraccio? Che ha trovato i buchi e tutto quello che ha trovato. Per cui tu sei dalla parte di Renzi? Ma che deve fare? Tu sei dalla parte di Renzi? Ma io sempre con Renzi. Va a morire a massa di tutti. E il becco 1-1. 1-1. E Gentiloni? No, quello è bravo. È di una famiglia per bene e bravo. Bravo, e bravo. Tutto quanto. Tu che eri dalla parte di Bersani? Voglio ammazzato pure a lui. Pure no. A lui, ma perché? E pensa che quando è stato male, che l'hanno operato al cervello, ci ho pure telefonato a casa e all'ospedale. E ci hai parlato? Sì. E allora? Ho parlato pure con voi. E adesso? Adesso mi ha fatto un culo. Ma perché? Pure lui. No. Speranza, che vuole quel rincoglionito? Ma è rincoglionito? Ma che vuole Speranza? Che fa? Speranza, se ne vuole... Per ammazzarli da figlio e da morti. Se ne vuole vogliono distruggere il Partito Democratico, vogliono lasciare... No, non distruggeranno mai. Vabbè. Non se riescono. Ciao, Annare, ciao, ciao. Ciao. Stai bene, mi raccomando. Ciao. Siamo proprio da Talbi, signor Talbi. Ma mi chiama tante volte Talbi nostro... Ma tante volte non Crociano. Vabbè no. Talbi, vai, parti, vai. Ciao cugino, come stai? Che fai, cugino di cugino che? Ciao di che? Chi? Ah, sei già cugino, intervenuto, certo. Che saluti di nuovo. Comunque vai, Talbi. Aspetta un attimo così saluto, porco maiali tu, Dio. Questo però ha ragione ancora e avanti. Tu sei il numero uno, tanto per cominciare, e secondo Milan. Detto però questo, perché gli dici numero uno e porco anche? Beh, è un maiale, Dio, quelli, porco cani, cosa pensi? Perché sono maiale? A proposito, Crociani, come abbiamo la stessa età, ma a te ti tira ancora? A me no, non mi tira più. Scusi signor Talbi, però lei perché deve chiamare? Ma aspetta cugino, aspetta, tra maiali, questo discorso tra maiali, dai, no, aspetta, ma scusa, ti tira ancora, capito, tu no? Ma perché non ti tira più, Talbi? Quanti anni hai, scusa Talbi? Come te, 51? No, io ce l'ho 50, veramente. Comunque, vabbè, d'accordo. Vabbè, dai, non mi tira, devo fare 3, 4, 5 alla settimana, ma non di più. Ma cosa? 3, 5 settimane è tantissimo, scusa, non è più. Sì, trombato. Ma capite, è tantissimo, scusa, Talbi. Ma con la non stessa tira, con, dai, con la moglie. Rispetto prima. Ma con la sì, moglie. Con la moglie, sì, con sì, la moglie. Sì, bravo, sì. Bravo. Ma perché bravo? No, aspetta, detto questo, dai, qui, far chi devo andare a caricare il camion adesso. Allora, io devi andare a caricare il camion. Sì, ma tu preghi ogni tanto, dai. Preghi ogni tanto, no? No, la verità no. No, mai. Ma infatti tu non sei musulmano, sei uno così all'acqua di rose, cioè sei sì, vabbè, ogni tanto avrei pregato quando eri più giovane. Vabbè, ma che no, vuoi? No, no, io sono musulmano, veramente, attenzione, sono sì. Quello puro musulmano, attenzione, ma che è puro eh? Musulmano, ma quando mai? Sì, va bene, dai, d'accordo. Picchi tua moglie, per esempio, picchi tua moglie? Ma picchi tua moglie? Non la picchi, anzi, ma non picchi. Picchi piccola moglie? Picchi. Sì, ma porco che me si lemmi da carri dalla mattina alla sera, porcaccia la puttana. Ma che ti dà? Che picco, cos'è che ti dà? Troia vacca. Ma no, che devi dire? Tipo. Quanto è integrato questo qua? Troia vacca. Ma cosa dice? Aspetta, aspetta, devo crociare che vado via, devo subito. Aspetta che ti lascio libero. Ieri il musulmano ha detto sì. Che quando fai la puss, la pussetta scorreggi, dai, vai, fa sì. Un altro linguaggio che ti piace a te. Quando sì. Scorreggi vai a lavarti. Non è vero, cazzo. No, io non mentico. Tu non sei musulmano. È un tema approfondito, da approfondire. Sono questi musulmano, però quando sì, ma scorreggi... Sei finto musulmano. No, sono un musulmano, aspetta, quando scorreggi sì. Ti spiego io bene così tu capisci se non ti prendo ma più in giro ancora, musulmani. Ti ringrazio. Che stai facendo allora? Cioè, allora, no. Non no, stavi caricando chi? Il camion, Tavio? No, no, sono fermo qua a aspettare ma non te, fa due niente, minuti poi mi rivado. Scusami Tavio, ma tu ancora, niente. Tu fai camionista ancora, no? Sì, faccio proprio camionista, non mi danno pensioni, porco cazzo, se mi danno ancora me, non mi danno. Vabbè, allora? Che volevi dire? Allora, mi diceva il ragazzo ieri, l'uomo, che quando scorreggi vai a lavarti, no, non è vero niente. No, puoi scoraggiare anche 50.000 volte. Ma no, ma lui che ma sistema è questo? Scusa? È il musulmano che si lava continuamente quando sì, emette delle, no, emette delle scoreggio. Bravo, lui deve proseguire. C'è un signore islamico che è intervenuto ieri sì, e che sosteneva che c'è un continuo lavarsi, un continuo certo, lavarsi. Perché insomma l'uomo ti ho spiegato che fuori dalle moschee in tutte le moschee ci sono i posti per lavarsi i piedi, le mani e dietro le orecchie e la faccia perché per entrare in moschea devi essere pulito al cospetto di Dio. Vabbè, questo in tutte le moschee ci sono questi. Che poi ci sia questo dettaglio sulla come dire Talbi, sul... Su, l'ultima volta che ti sei stato in una moschea quando è stato tu Talbi? Aspetta 4 anni che non vado giù. È 4 anni fa, ma tu non lo sai manco dire Allahu Akbar, non lo sai nemmeno no, dire. No, so dire, calma, non lo sai, calma, non lo sai dire Allahu Akbar. Allahu Akbar lo dico, Allahu Akbar lo dico, dai, dillo in mezzo, vai a dire in mezzo che ne so, a una piazza, dillo in mezzo ad una in un bar, in un supermercato, fai Allahu Akbar, vedrai. Minca, urco, cani scappano via tutti, pensano che devo esplodere. Non dici questa roba qua. Ormai non puoi dirlo questa roba qua. Lo vedi? No. Ti credo se scusa, uno non ho capito bene il discorso che facevi in precedenza. Cioè, tu dici praticamente che fai sesso molte volte, 3, 4, 5 volte poco, a settimana. Poco, 4, 5 volte a settimana, poco, porco cane, dai, rispetto prima. 4, 5 volte a settimana è poco. Sì, con perché la moglie non sta, ma se sta la moglie posso fare anche tutta la sera, ma poco. Non faccio più 3, 4 la notte. Uno, due, però via. Che tipo di interesse ha questo intervento per il grande ascolto? No, io non ho detto questo, è lui che mi ha provocato, quel maledetto no, là vicino del porco. Quel maledetto, lo so che è un porco schifoso, tu non cascare nella trappola però. Cosa rispondi su quanto fai sesso? Ah, scusa, ok, cugino, non rispondo più. Ma perché non rispondere più? Ma deve rispondere, scusa, che cugino? Cugino non rispondo, sei d'accordo. Scusa, ma io voglio Talbi, non ho capito, ma tu tradisci tua moglie o no? No, non tradisco. Beh, dai, come no, 51 no. Sarà una di quelle là, una panzona tremenda, tua moglie, una di queste qua col velo, una panzona terribile, ma sicura al 100%, matematico. Cioè, una di queste qua. No, o no? O sbaglio? Talbi. Ascolta, io ti chiedo solo un piacere e mi rivolgo a caricare il camion. Per favore, invita la dottoressa Gnappi. Ma perché? Tu sei fissato la Nappi? È fissato con la Nappi. Mamma mia, ma sentirlo cosa parla? Che dà le lezioni, lei parla noi, parli donna, quella roba ma là. Ma tu non sei islamico, perché sei troppo. Sei un gran peccatore, cioè non sei un vero islamico. Questa è la verità, puoi dirle che però, forti, amico mio, peccatore. Tua moglie è sicuramente una vecchia cicciona, una no, ma scherzi, una modella, altro che adesso è vecchiata anche lei. Sì, sarà inguardabile adesso. Va in giro col Chador, col Chador. No, metti solo un folare adesso, da un po' di anni metti il folare sopra, basta un folare. Se si veste l'italiana metti solo un folare e via. Sarà inguardabile sicuramente, inguardabile. Sì, dai, una bella donna, dai. Okay, se lo trombo ancora vuol dire una bella donna. Se no? Talbi, però... signor Talbi da Padova, vai carica il camion, va, ciao. 600 milioni di euro di finanziamenti, 380 tra i migliori ricercatori italiani. 7.000 eccellenze europee, tra cui 6 premi Nobel. Sono alcuni dei numeri di IRC, i fondi messi a disposizione dal Consiglio Europeo della Ricerca. Un progetto che compie 10 anni, traguardo che l'altra Europa festeggia all'Università di Padova con una puntata live. Sono Federico Taddia e vi aspetto sabato 18 marzo alle 12 presso l'aula Nievo di Palazzo Bo a Padova per conoscere i campioni della scienza in Italia e scoprire insieme l'Europa delle opportunità. La zanzara. Tipi da zanzara. Oh, Lamberto, provincia di Ancona, vai Lamberto. Buonasera Giuseppe. Dimmi Lamberto. Io prima di tutto ti voglio dire una cosa. Io sono un camionista e ho un fratello camionista, sì, nazionalista e un po' di destra, che così sta antipatico a Parenzo. Ma no. Anzi, vabbè, allora? Dico pure anche un po' fascista. Dei finocchi, io sono camionista e non sono finocchio, come che diceva quello lì l'altra sera, che tutti i finocchi, non è vero un cazzo, io i finocchi li mettevo in un campo di concentramento insieme a quelli che gli dà ragione, mettevo lì separati perché non sono persone normali. Cioè, cosa faresti con i finocchi? Cosa faresti con i finocchi? Li mettevo in un campo ricintato, stavano lì, non stavano già fatto alla società. Camionista, non omosessuale, mi sembra, eterosessuale. Esatto, anzi, come me ce n'è tanti. Sì, n'è sì, tanti, perché normali. diciamolo. Molti normali, perché quelli gay normali. Che sono invece anormali. Tu dici che quelli gay non sono normali invece, giusto? No, non sono proprio normali. Poi io sono un pacifista. Hai detto che li vorresti mettere in un campo di... Hai detto che bisogna metterli in un campo di... Sì, perché vanno rompendo i coglioni. E dunque che bisogna fare? Isolarli. Da qualche parte, così non rompi i coglioni a me mentre viaggio. Cioè, in un ghetto come gli ebrei durante il nazismo, diciamo, no? Pazzesco. Sì, ma io li trattavo meglio. Io non li faccio manco la... Gli do la mangiare pure. A chi? A quelli che stavano dentro il recinto. Sergio, Roma, vai, Sergio. Sì, pronto? Dimmi, chi sei, un tassista? No, io non sono un tassista, tanto concedetemi un attimino. Allora, a parte che non tirano nessuna bomba carta, queste sono tutte cazzate. Hanno tirato due micette, un paio di rauti, perché bombe carta... Lei era in piazza, mi pare di capire. È altra roba. Che le sei, bombe ambulante, carta. Che sei? No, io non so niente, io faccio l'autista privato. Le foto pubblicate cazzate. Dai giornali, ma chi c'era lì, tutti i balle, dicono. Parezzo. A deficiente! A coglione! Cornuto! Fammi parlare! Allora, ma dai, mica c'ho paura di te, cornuto! Col culo seduto sulla sedia, tra parentesi, chiacchierato come il tuo, ma guarda, che non sei altro! Come ha detto, scusi? Manganellare! Devi stare calmo, devi stare tranquillo! Le tue chiappe sedute al calduccio, tra parentesi, chiacchierate, ma questo è un tuo problema! Io sono contento. Appunto, che a tua sorella piace, infatti a tua sorella piace in genere. Io ho tutti i fratelli, Valenzio, però la carne de porco non allora, ti piace. Ah, era tuo fratello quello porco. Che è venuto con me l'altro allora, giorno, allora. Porco, ah, era tuo fratello. Ragazzi, calma. Se mi fa parlare e tuo fratello. Fai stare zitto questo sulla salaria l'ho visto in buona compagnia, tuo fratello. Sei un semi subnormale, tacci. Non ho capito qual è il tuo problema. Non ho capito. Troppe allora, poche mazzate ti hanno dato oggi. Allora, troppe poche. Allora, le troppo mazzate poche. Te le darei volentieri a te. Ma dai, ti aspetto. Vieni qua, ti aspetto. Dai, state calmi. A Roma, guarda. Io non ho capito, Sergio, non ho capito bene una cosa. Cosa senti, vuoi? Parezio, coglione. Ma vaffanculo. Puoi litigare solo con i polli nel polaio. Ma non ti permettere, coglione. Guarda, che sono più bravo di te a dire parolacce, imbecille, coglione. Ma vaffanculo, testa di cazzo. Ragazzi, dovete stare tranquilli. Ma che è successo? No, ma sto coglione, che cazzo vuole? Ma fai sta zitto, sto frociaccio. Ma perché? Che serica. Brutto imbecille, te chi ti ha messo al mondo? Che imbecille, tu e chi ti ha messo al mondo, coglione? Ma perché? Che c'entrano i cessi della stazione? Poche te ne hanno date oggi. Poche te ne hanno date, coglione. Ma perché? Ma perché? Ma qual è l'oggetto della discussione? Silenzio, no, imbecille. Silenzio non lo dici, zitto perché se no tu, ti faccio imbecille. Ma chi conduce, Cruciani o Parenzo? No, tutti e imbecille. Tutti zitto, tu imbecille. Vabbè, me lo fai stare zitto, non faccio stare zitto, no. Se continui così se non ti faccio zitto, parlare. Non parli. Allora io mi ma silenzio. Vaffanculo. 30 secondi, senza dire cazzate. No, senza ma dire quali cazzate, ma io dico le cose. No, senza di no quello che della strada. Sono un uomo del non so con la sedia su della strada sicuro. Col culo calmo sulla strada sicuro. Io mi guadagno la tua sedia. È bucata la tua sedia. È bucata allora, la tua sedia. Ma non ho capito, ma perché protestavi? Perché protestavi? Per perché protestavi? C'è il culo bucato, Valerio. C'è la pure bella grossa, ragazzi. Perché protestavi? Ma perché? Che ti chiamano il groviere a Milano, ma bravo, tu dai, e tu perché protestavi, Sergio? Perché sua madre, perché lui ha visto sua madre sulla salaria. Io capisco che un po' ma tu non hai ancora capito che non parli, ma hai capito che tu oggi non parli. No, lascialo parlare un attimo, se non chiudiamo questa cosa, dai, lascialo parlare 30 secondi, ti prego, Davide. Dai, allora, tanto dico a sto pezzo di merda che le mani non si toccano. Basta, capito. 30 secondi. Ma non hai capito ancora. Sergio, sei un pezzo di merda. Ma non hai capito. Sei un pezzo di merda, ragazzi, non si può. Ma non hai capito. Ma che c'entra, Procio? Non è un'offesa. Ma non hai capito. Mezzo mia madre. Ma non hai capito che tu sei continui così. Hai detto parli. Le peggio cose, adesso non può dire niente di tua madre. Dai, Sergio. Vabbè, ma allora, non hai l'hai capito o no? 30 secondi, ti prego, Davide, 30 secondi. Ma se lo fai sta zitto, sto deficiente. No, io così parlo, no. Ancora, ma non hai capito. Ancora non hai capito, imbecille. 30 secondi, vai. Che più tu mi insulti, più non parli. Non hai ancora capito. Non ti insulto, va bene. Francesco da Milano, dai, Francesco. Niente, volevo interloquire con il dottor Parenzo perché è sempre il solito parassita che va a convenienza. Quando va bene, perché se vado io a prostitute devono sputtanarmi, mandarmi la multa che lo deve vedere mia moglie. Quando si tratta della signora Mussolini non si può toccare. Tu vai a puttane, sì o no? Ma ogni tanto ci andavo, adesso mi hanno fatto passare la voglia perché ti fanno una multa di 10.000 euro e non posso più andare. No, è che non ti tira fatto più, benissimo, non ti tira più, questa è la realtà. Troppo poco. No, beh, ogni tanto mi tira, non sempre, forse ogni tanto, ma però... Il dottor Parenzo, Donato di Varese. Senta, amico mio, se lei vuole... Donato di Varese, che Donato di Varese fa... ma con lui veramente c'è da fare... Senta... che falso personaggio, che falsità. C'ha una falsa, più falso della carta velina. Ha finito? Guarda. Ha finito? Ha finito lo show? È mio assoluto diritto sperare... che la polizia di Stato e nonno, i vigili, la becchino, prendano il numero di targa, la multino e mandino a casa ai suoi parenti, cugini, fino al sesto grado, questo dovrebbe tu essere sei fatto. Un coglione, Parenzo, questo perché... è la mia speranza, che le mandino a casa, c'è il signor, come si chiama questo? Come si chiama questo signore? Francesco. Il signor Francesco tal dei tali è andato a puttane, questa è la dicitura, col giorno in cui è andato, la foto della macchina, mandato ai suoi familiari fino al sesto grado, fino al sesto grado, capito? Personale, coglione, perché mi devono attaccare a me? Saluti tutti a casa. Io saluti posso tutti. Andare a puttane senza rompere in casa mia moglie. Il potere ti fa paura, attacca la povera gente. Molta povera gente. Lupo non mangia lupo, eh? Lupo non mangia lupo. No, ma lupo mangia idiota, cioè lei in questo caso. Sei un parassita. Lupo non mangia lupo, ma lupo mangia idiota, cioè lei. Ma quale idiota, tu rappresenti proprio la falsità. La falsità, Donato da Varese. Ma che non dovrebbe fare A. Il leone dovrebbe fare A con te. Ma cosa hai capito? Ma lei è anche un disturbato mentale. Francesco, ma lei è un disturbato, quante volte Francesco. Vai a puttane? Ecco, sentiamo. Ma quelli sono cazzi miei, mi hanno fatto passare la voglia, ti ho detto, perché l'ultima volta ho preso una multa di 500 euro. Bravo, bravo, questa è la verità. Così ci pensi due volte la prossima aspetta. Volta. Vero, Francesco, bandiera di libertà di questa trasmissione, 500 euro hai beccato, da chi? Ottimo. Dove? 500 euro dai vigili, che tra le altre cose, quel giorno non avevo ancora fatto un cazzo, mi ero solo fermato che stavo aspettando un coglione in quel modo. Aspettando, ma miserabile, miserabile. Ma stavo coglione, solo chiedendo un'informazione. Stavo solo 500 euro, troppo poco. Pagare la multa, foto a casa, la moglie, ai figli, fino al sesto grado. Perché quando si tratta della povera gente, la mandiamo. Facciamo le multe. Vai lì a sfruttare le donne. Domani mattino tu, quando ti guardi allo specchio, devi dire ma lo sai che quel signore, quel coglione, ieri forse aveva ragione, perché quello è un posto personale questo come sulla... quello della Mussolini, hai capito, coglione falso, cosa devi dire domani allo specchio, quando ti guardi allo specchio, quello devi dire, non della mia moglie, non ti preoccupare di mia moglie. perché la mia famiglia la devono devastare. Se io sono un Carmine, porco, dove cazzo, sei un porco? Che cazzo c'è mia moglie che deve rompere il cazzo a mia moglie? Se io sono un porco, è un mio fatto personale. È un porco. Basta. È un porco, dai. Sono un porco, ma sono io un porco, perché deve cagare il cazzo a mia moglie? Ma ha ragione. Carla da Torino, due erano perfette. Mi fate parlare? Ecco Carla. Sì, signora Carla. Buonasera. Allora, Carla, io sono a favore del dottor Lemme. Dottor Lemme, che cazzo Lemme ce ne frega? Allora, questa è una notizia importante da dare in apertura. Aspetta. Che mi stanno dando contro sto dottore. Aspetta Carla un attimo. Io voglio capire una cosa. Tu alle 18.51, maledettissime 18.51 di lunedì, che è il 16 oggi, lunedì 16 gennaio 2017. Ecco, bravo. Benissimo. Allora, ci chiami dalla città, dalla nobile città di Torino, per dirci che sei a favore del signor Lemme. A favore, mi sembra, no? O sbaglio? Certo. Del professor Lemme, Lemme. Professore o non professore, a me ieri lo stanno massacrando questo dottore. L'hai visto dalla signora l'hai visto dalla signora D'Urso anche ieri sera? Poi ho visto la signora Villa, che è una grande cafona. Vabbè, ma che ci vuoi dire al di là del fatto che sei dalla parte di Lemme? Io ho fatto una dieta quasi uguale del dottor Lemme. Che vuol dire quasi uguale? Adesso io non ho più 50 anni, ne ho 70. Quello si è capito, sì. Allora, sentimi bene a me. Sì, dimmi. L'ho fatta da un medico di Torino che era a Rivalta di colore. Ma che c'è? Scusa, perché noi dovremmo essere interessati? Aspetta, fammi finire. Oh, mi fai parlare. Io in 40 giorni con questo medico ero 68 kg, sono diventata 45 kg. Ma perché dovevi passare da 68 a 45? Su 68 mica perché volevo di non essere belle magra. Ma in 40 giorni io ho perso 20 kg. Ma che c'entra Lemme con questo? Non sono morta, sono ancora qua, non mi è venuto né tumore. Sono qua a 70 anni, però queste diete valgono. Ma perché mi aveva tolto tante cose, l'acqua frizzante, le birre, tanta verdura, carne bianca, tante ma a noi cosa cose interessa di scusa aspetta qua, Carla scusa. Io voglio capire di quello che mangia la Carla, ma a noi a me cosa interessa? Ti dico che queste diete fanno bene. Ma ha ragione Carla, lasciala parlare. Perché la insulti così? Perché ma l'attacchi? Non la insulto, ma non l'attacco. Ma dico cosa me ne frega di quello che della carotina che si beve. Che si beve Carla. Allora, me ne frega niente. Sono arrivata da 68 a portare la taglia 40. Ma perché da 68 volevi passare a 40? Cosa me ne frega? Sarà contento il marito. Ma quanto me ne frega sei niente alta? Quanto me sei alta? No, non avevo più marito. È morto. L'ho mandato a fanculo quello. Vabbè, ma che personcina gentile poi. Dai, ma chi se ne frega però. Ma... io mi sono divorziata e separata. Lui se l'è trovata un'altra brutta vecchia rossa, più vecchia di me. Beh, magari rossa sarà di più... capelli fuori. Se n'è andato lui. Diventare... se n'è andato lui con un'altra e ti credo. Adesso non è che è spiegabile tutto. Fuori io. Ma che se n'è andato lui, l'ho capito subito. Se n'è andato lui perché non poteva più stare con lei. Ha detto che io se n'è andato lui. Eri? Ha detto che lui era che tu eri 120. Ha detto alla sua amante che io ero una donna di 120 kg e invece che facevo schifo. E invece quant'eri? Vabbè, quello sai. Quanto 68. Quanto sei alta però? Dipende, 68 sei alto 1,40 m. 1,65 m. Beh no, ma allora non sei, però no, cosa ci può interessare a noi sta roba? Bionda con gli occhi verdi. Ma chi se ne frega? Scusa, ma non me ne frega niente. Se ne frega lui. Ma secondo me sto dicendo come sono io. Sì. Ma non me ne frega nulla, ma neanche ai 2 milioni, ai 1.800.000 persone che ascoltano gliene frega qualcosa. Scusami, ma non me ne frega, tu mi stai chiedendo di quanto sono alta. Io e l'altro, Carla, io non chiedo niente di questi dettagli. Io voglio, adesso quanto pesi, Carla? Vatti a pesare un attimo, scusa, fammi sto favore. Vatti a pesare. Adesso. Vai a pesare. 70 anni. Quanto? Ho capito. Questo ho capito che c'è 70 anni. Quanto pesi adesso? Di nuovo 68. Vabbè, benissimo, evviva. E allora cambia la mia giornata. Ma poi no, che c'entra Lemme? Cosa c'entra Lemme? Allora, se io ce l'ho. No, Lemme fa le diete giuste come faceva questo medico qua di Torino. Vabbè, questo che ne so io, come siamo. Questo era Torino sempre pieno così. Io voglio capire, tuo marito, ancora hai rapporti con tuo marito o no? E chi lo conosce? Dal 90 che sono divorziate. poi e adesso me li sono allevati pure io. I figli, cioè, dove stanno i tuoi figli? Due. Li vorrei chiamare. Aspetta, dai, ti chiamiamo dopo alle 7:15, ragazzi, rimanete qui che c'è Carla da Torino, che the show must go on, caro Parenzo. Carla, ci sei? Carla? Certo, sono qua. Ecco, la figura di sera nonna. Allora, cara Carla, abbiamo scoperto che tu ti sei affidata anni fa a un dietologo, giusto? Un tizio delle certo. diete. Di Rivalta. Di Rivalta, sì, un po' scuro di carnagione, giusto? Certo, non voglio dire nero, ma era ma nero, un nero. Bravissimo professore. Come si chiamava questo qua? Come si chiamava? Non lo so, io ho i documenti, non mi Christian, interessava. Christian? Sì, Christian. Era sempre pieno così. Arrivavano da tutte le parti. Ecco, signor Christian Mattias Zoku Ungbo. Certo. Era lui o no? Era lui o certo. no? Senta, allora, certo. ti dico, ti voglio dire chiaramente. Questa è una cosa di nessun interesse. Il cosiddetto mago delle diete a Torino, anni fammi fa. Fammi finire, me prima parlo io. No, ma aspetta. Prima di darti la dieta sto dottore, che faceva passare sì. da sì, dottoresse che ti guardavano il cuore e tutto sì. quanto. Sì. Ma... Va bene? Sì, certo. Poi ti dava la dieta. Sì. sì. Io l'ho fatta. Pillole. Come ti pillole, ho detto prima. Pillole. Che cos'erano? Sì. Pillole? Le davano una farmacia. Sì, le pillole, giustamente. Tre pillole al giorno. Non sì. erano anfetamine. Però, sì, ma, signora no. mia, secondo sì. lei, perché sì. questa cosa che ci sta raccontando, e non mi voglio innervosire, secondo lei interessa in una giornata come questa al grande pubblico del Aspetta. Gruppo del Sole 24 Ore? Ma chi se ne frega? Perché voi mi avete chiamato? Io sto dando una ragione a questo altro qua. Ma che ne sa lei di Lemme? Che ne sa lei di Lemme? A parte che ha chiamato lei, ma che ne sa lei di Lemme? Perché è la stessa dieta di questo no, qua. No, ma guardi che allora questo signore qui che lei che le diede delle pillole è stato anche condannato. Condannato sì. per il contenuto delle pillole anni dopo. Figurati, pensa che bandighero. Cioè, che cosa erano quelle pillole? Beh, delle ma cose signora, che... le ha prese lei? Ma chi se ne frega poi? Ma a me proprio me ne frega. È un io medico... 40 giorni sono dimagrita di 20 appunto. Chili. Ho appunto. Medico originale. Sono morta. No, magari sono stata bene. Sì. Intanto il marito se n'è andato comunque. Mi quindi... ascolto. Oh, ma me fate parlare, parlate solamente voi. Oh, ragazzi, comunque allora, signora mia, era un era una specie di verdure, sì, di verdure a base di tutto quanto sì. e sono dimagrita. Sì. Va bene? Va bene, è dimagrita. Ci fa piacere, viva, fare un comunicato stampa. Perché in 40 giorni dimagrire di 20 kg. Ma noi che cosa continuavo a perdere peso. Scusi signora, ma noi che lei è dimagrita di 20 kg, ma esatto. che cazzo no, ce ne frega? Sì, ecco, scusi appunto. Signora. Ma la cosa mi chiama. Ma lei di che nuovo. Ha chiamato? Ha telefonato lei. Che ho mandato a fanculo mio marito, ma hai anche detto le brutte parole. No, no io ma no. nessuno ha detto niente, ma signora mia. Hai fatto bene, che hai fatto bene. Mi sembra strano che dal 90 non tocchi palla, cara Carla. Cioè, dal 90 non vedi un uomo nemmeno col binocolo. Allora, sentimi bene bene. Io te ti ho visto per televisione. Beh, sì, allora? Io con uno come te... ma neanche ma con chi ce l'ha con te però con me, sì, ma neanche se ma, lo fai vedere. Ma ce l'hai con me o con Parenzo non ho capito con tutti e due ma l'hai visto tutti pure Parenzo siete due mostri ha parlato proprio ma non me caspita chi ha parlato ma che ha anche ma... se ho 70 anni ha parlato la fotomodella di Nogarone Rocca lì scusa di Carla ma Parenzo l'hai visto in televisione o no che Parenzo, l'hai visto in televisione o no? L'hai visto o no? Ma senti, io ho visto degli uomini molto più belli di voi. Ma non mi interessa. Quando ero giovane, a 40 anni, io, sai, vuoi che ti dica una cosa? Sentiamo, tanto quello no, se n'è andato, il marito adesso dico l'avante per giunta, la cosa da lei. A 20 anni, io sono andato a letto con Agnelli. No, vabbè. Sì, vabbè. Con Richard Burton. Ma voi due? Sì, vabbè, dai, ma... Ma no, pure quello ci vuole. Dai, cazzo, dai, su. Dai, non dai, scherziamo. Signora, non ti racconto può... male. Ma dai, ti racconto la mia storia. Ma ho perché? Ho avuto delle persone di Torino. E se tu vuoi vedere chi ero io. Sì, chi eri? Va bene? Dici, chi eri? Io sono stata la modella di un certo architetto Mollino di ma Torino. Ma cosa dire dei nomi così a caso, poveretti? Sta gente tirata in ballo. Non mi interessa. Le mie ma foto, mi interessa a me, quando ci vengono fanno all'esposizione di Mollino, ci sono io 20 anni. Mamma mia, ma come fai di cognome tu, che magari ma sei ancora non ti do il mio cognome, ma lascia stare, ma dice che ti sei scomputato. Signora mia, in diretta radiofonica sta parlando del povero avvocato Agnelli, che non può dire il contrario. Bollino, di un architetto Bollino è morto, appunto di adesso abbiamo capito c'era. Perché è morto, sono quella che va per televisione a dire che quel signore lì, ma anche per l'ascensore la voleva, non ha importanza. Ma chi? Qua l'ascensore dove? Una bellissima donna. Ma chi? Questa? A 20 anni, bellissima. Ah, tu, lei. Sì, a 20 anni. Bellissima, 50 anni. Ti mando le mie foto. Ma non mi interessa per nulla, non me ne frega allora, niente di sta storia. Ma è arrivata la mia età per dire anche quest'altra cosa. Sì. A tante ragazze giovani, diciamola, che vanno per televisione. Sì, facciamo così, diciamo. La vita, io ieri, guarda, sentimi bene. Sì, io ti dico questo alla mia età. Sì, stavi sentendo la Durso. Ho visto lì. La Durso, sempre dalla Barbara Durso. Sempre, attrice che è diventata una schifezza. Ma chi è diventata una schifezza, scusa? Chi? Che si è rotta una gamba in mezzo a una strada. Ma chi? Ma chi si è rotta una dice? Gamba? Chi? Ma non hai visto ieri? Ma no, no, ma non è che uno passa, noi passiamo la giornata a vedere la Durso. Quella che faceva la grande attrice delle televisioni. Sì, sarà stato un ospite lì. Con la casa bruciata. Ma no, non l'ho visto. Mi è preso un magone. Mi dispiace questo. Se non l'ho più, guarda, credimi, mi è andata... L'angoscia mi è venuta. Ma quella è giusto. Una donna così. Che ha avuto tante amicizie nella televisione, sì. Tanti amici sì. L'hanno lasciata in mezzo a una strada. L'obiettivo raggiunto dalla Durso, comunque ha colpito il cuore la signora, emozionata, la grande emozione, le cose. Vabbè, cara Carla, io starei con te a parlare 3 ore. Ma io no, invece. Io invece ci starei a parlare con voi, perché certo, non c'è cazzo da fare, certo. Cosa? Attrici che sono state a Canale 5. Ma non mi interessa adesso questo cosa. Si trovano in mezzo a una strada. Possibile, ma non che mi interessa. Nessuno gli abbia pagato un affitto, ma... che l'abbia aiutata, deve andare alla Caritas. Sì, la Biagini, era Isabella Biagini. Sì, ecco, mi dispiace. La Biagini, vabbè, una ma... donna così, ridotta in questo. Guardate, ragazzi. Vogliamo piangere? Vogliamo piangere? Mi ha preso un magone da piangere. Questo, vabbè, lo so, piangiamo perché insieme. Perché non esiste. Piangiamo una insieme, donna dai. Che ha fatto tanto, forse per la televisione. Piangiamo insieme, dai. Quella Rai. Ridotte in quella non situazione. Piangiamo insieme, dai, piangiamo insieme. No, non piangete. No, io non sapete piango. Una cosa. Che sappiamo? Ricordatevi bene quello che vi dico. Sentiamo, me lo scrivo. Che la vita è strana. Sì. Molto la medaglia strana. Gira da una parte e dall'altra. Questo non c'è dubbio. Sì, questo è vero, questo è vero. È successo. Ecco. Certo. Cara Carla, ti saluto. Ridotti così. Ti abbraccio, dai, ti abbraccio. Ciao, allora, Carla. Abbracciatevi e fate la dieta, eh? Ma la dieta ma di che? Dieta, non bisogna nessuna dieta. Vi ho visti che siete magri. Ma aspetta, quando avrai 70 anni diventerai anche 80 kg. Ciao, Carla. Ciao, saluto, ciao, signore. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci, ciao, arrivederci. Una saluta, ciao. Visto che tu sei entrato in casa mia, avresti potuto, visto che stavi rubando nel negozio, ma chi lo sa, potevi anche essere Hitler, Dia, Satana, cioè, ormai, visto che sei entrato, hai dato là, per me potevi stuprare, potevi uccidere, potevi torturare, così, boom, fucilata nella schiena. Ci sta, ok, questa è la giustizia secondo Cruciani. Tu fai la prima mossa, puoi fare di tutto, dal momento che hai fatto la prima mossa, fucilata nella schiena. Poi è chiaro che tu dici, se non ci stavi, se andavi a lavorare, a fare un lavoro onesto. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Questo è un ragionamento da ISIS. Visto che non predichi la mia religione, ti taglio la gola, perché chissà. Ma a cagare, Cruciani, forza Parenzo. E sta maggioranza, che non sia più tanto silenziosa. La realtà è che in questo stato di merda un cittadino che difende i propri familiari dai delinquenti che gli entrano in casa viene inquisito, processato e inculato, mentre sti cazzi di farabutti vengono protetti, avete capito? Perché questo è uno stato mafioso, mafia. Cruciani, a me mi dispiace che il signor Mari ne ha presi solo uno, invece doveva prendere tutti e tre. Cruciani, chiamami Cruciani, io sono un emigrante in Italia e sono contento che il ristoratore ha sparato e dobbiamo prendere esempio di lui. Dobbiamo sparare tutti quanto ci vengono a derubare a casa nostra. Tutti dobbiamo sparare e dobbiamo esserci fieri di sparare. Io penso che quel signore Lodigiano abbia fatto proprio bene. E noi abbiamo subito un furto in casa 2 anni fa e quando ci penso ringrazio Dio di non essere tornata prima a casa, perché se fossi arrivata prima sarei entrata con la macchina dentro al cancello di casa mia e li avrei sfracellati in un muro con tutta la macchina proprio lì e me li sarei guardati per mezz'ora prima di chiamare i carabinieri. La Zanzara. A grande richiesta, la prima puntata delle lezioni di sessualità della professoressa De Mari, Silvana De Mari. Ricordo, Silvana De Mari, chirurgo, medico, endoscopista e quant'altro, che ieri ci ha fatto una lezione, una lezione magistrale assurda, chiamiamola. diciamo la verità, una lezione assurda, ecco, secondo noi, però rispettabile a modo suo, no? Sull'omosessualità, il sesso anale, eccetera, eccetera. La situazione degli omosessuali, secondo lei, lei dice di amarli, è tragica per l'uso dell'ano. Dell'ano! Lei come considera la condizione dell'omosessuale? Una condizione tragica? Una condizione difficilissima. Drammatica, tragica. Purtroppo drammatica per la situazione anorettale, in particolare quella maschile. Cioè dell'ano? Esatto. Non vi scandalizzate, ragazzi, questa qua è una chirurga, una professoressa, un'amica di Adinolfi, un'amica pure di Sgarbi, per cui dice queste cose in pubblico tranquillamente, cioè una signora, cioè non è che sta dicendo delle cose volgari, non mi rompete i coglioni con questa cosa qua. Lei dice la situazione degli omosessuali è tragica per l'uso dell'ano, mentre la vagina, così lo ha detto apertamente, tranquillamente, ed è lei che lo dice, non noi, certo l'abbiamo chiamata noi. La vagina è stata creata per essere penetrata. Sì. Allora, quindi la vagina, sì, ha una mucosa che è una roba incredibile. Beh, questo lo so. Ha, sì, presente Sire Aragorn del Signore degli Anelli? È una roba di questo genere, perché ci sono una caterva di strati l'un sull'altro. Ci sono delle ghiandole che producono lubrificante per non abbia. Questo lo so, le assicuro. È una sottomucosa che è una roba inenarrabile. È bellissimo, è bellissimo. E sotto ci sono una miriade di vasi linfatici per proteggere da batteri, virus, micosi e, sì, altre porcate. Mi segue sempre. Anche se ogni tanto si infetta pure la signora vagina. Perfino lei, poveraccio. Ancora, ancora. La cavità anale è stata creata perché passino le feci dall'interno verso l'esterno e basta. Sì, d'accordo. Dunque, non è prevista la penetrazione del pene. Ma non è vero, quindi, non è detto. La mucosa è sottilissima, viene facilmente lacerata. Sì. Sotto ci sono dei vasi sanguigni, venosi, sì, cosiddetti vasi emorroidali, sì, purtroppo estremamente fragili. Sì. Che già di loro tendono a fare casino. Se, sì, poi uno li sottopone al trauma, sì, fanno molto di più, aumenta le emorroidi. Sì. Il tutto può portare a fistole, all'accesso, sì, perianale, all'accesso anale, sì, e alle ragadi. Il cancro dell'ano. La conclusione dei danni qual è? Quali ulteriori danni? La conclusione danni? Si arriva al fatto che non ci sono linfatici, quindi tutte le patologie vengono moltiplicate per 20. Beh, ma c'è anche la libertà di farlo, però. Eh certo. Ma mica lo voglio vietare. Ma voglio, no, ma anche la natura, qualcuno lo fa in modo naturale. Per qualcuno è naturale farlo, è naturale, è natura. È naturale avvertirlo, arriverai in incontinenza anale. Per me è naturale avvertirlo, stai moltiplicando il tuo rischio di avere il cancro dell'ano. Ragazzi, è una vera e propria lezione, una lectio magistralis questa della dottoressa De Mari, eh? Lectio magistralis contro le unioni omosessuali. Beh, questo Parenzo sa va a sandir, no? Sì, cioè, mi sembra abbastanza conseguente, sì, a quello che sta raccontando. L'unione tra gay, l'unione, diciamo, matrimoniale tra omosessuali, per lei è una porcheria? Una cosa che a uno dei due fa venire l'ascesso anale e lo porterà fino all'incontinenza anale, per lei è una roba buona? Beh, mi sembra scontato, no? Mi sembra scontato. Le lesbiche però inquietano meno. Pure. Sì, ma ho capito, ma scusi un attimo, hai le lesbiche? Le lesbiche hanno meno danni, hanno per meno cui danni. Mi inquietano di meno. Inquietano anche di meno. Se anche lì ci possono essere alcuni casi molto rari, ma sono veramente rari, di aumento del cancro della faringe. Pure. Quindi tutto sommato è un problema loro. Sì, è un problema. Perché non devo avvertirle, ehi, guarda che quella roba lì ti fa male, perché onestamente non è molto vero. Ma il cancro alla faringe per le lesbiche, ragazzi, qui siamo alla follia, eh. il suicidio degli omosessuali, tasso di suicidio superiore. Questa è vecchia però, eh. Gli omosessuali sono in una condizione drammatica, lei dice. Ma certo che sono quello con una condizione drammatica, hanno un tasso più alto di tutti gli altri di suicidio. Proprio di suicidio. Questa condizione drammatica. Di suicidio. La zanzara. Richard? Sì? Ciao, sono Giuseppe Cruciani dalla Zanzara, come stai? Bene. Come bene? Ho visto. No, non tanto bene. Ho visto, povero. Come te la passi? Mi spiace. Non tanto bene, purtroppo. Senti, Richard, ma com'è che hai voluto fare questo appello? Davvero sei rimasto senza un euro? Sì. Ma proprio zero totale? Zero totale. Cioè zero proprio, cioè non, in banca quanto hai? Niente. I debiti no? Debiti nessuno. Debiti nessuno, però proprio non riesci ad arrivare a fine mese. Come campi? Come mangi? Mia moglie mi cucina la pasta fatta in casa. E dunque questo appello per chi è? Cioè, ho sentito che tua moglie chiede aiuto a Berlusconi addirittura. Sì. Come mai proprio a Berlusconi? Perché sono molto amico del figlio Pier Silvio. Ah, di Pier Silvio. Molto bene, molto bene. E tu dici che te può dare una mano a Berlusconi? Sicuramente. Ma che vorresti da Berlusconi? No, mi dà anche un programma televisivo con Barbara D'Urso. Ma quando? Vabbè. Dura un'ora e mezza, mi pare. Ah, domenica dici, domenica live. Dici, sì. Ti invita lì e intanto ti dà qualche euro, diciamo, di rimborso, diciamo, no? No, mi dà un sacco di soldi. E quanto ti dà? Non lo so di preciso. Ma avete già fatto l'accordo o no? A parole. Cioè andrai lì dalla D'Urso e diciamo poi ti daranno dei soldi, diciamo, no? Certo, ma dice, questo è il discorso. Ma dice che vuoi anche una casa, ha detto tua moglie, ho letto da qualche parte. Sì, abbiamo bisogno di una casa. Ma scusa, tu una volta non eri, cioè tutti i soldi che hai guadagnato, quanti ne hai guadagnati in tutta la tua carriera? Ma che ne so, tantissimi. E che hai fatto? Dove hai buttati? Si spendono i soldi, come... vanno via come il vento. E come si spendono, Richard? Sono passati di così tanti anni, che ne so, come ricordo io. I soldi se ne vanno via come il vento, ti ho detto. Ah, ho capito, ho capito. Come... Possibile che non mi vuoi ascoltare? No, ti sto... Non capisci, esatto, ha ragione, non capisci niente proprio. Non capisci nulla, Cruciani. No. Scusa, Riccardo, scusa. No, ma Richard, scusami, Richard, ma come mai che sei finito così male, diciamo, dal punto di vista anche fisico? Ti ho visto stravolto, distrutto. E mi sono ammalato di cuore, non riesco neanche a respirare. Ma e i denti? Povera. E i denti che ho visto? E i denti mi hanno buttato una lattina contro i denti, il pubblico. Sì. E si sono tutti distrutti. Dunque tu diciamo nell'ordine di che cosa sei malato, perché ti ho visto veramente male in quel filmato. Sei malato di cuore, di che cosa sei malato? Sono malato di cuore. Di cuore, cioè problemi? Non riesco a respirare. Ah, proprio grandi difficoltà di... E come fai a fare programma in televisione? Sei ospite, diciamo, vai ospite. Sì, ma riesco anche a fare i concerti, eh? E come... Anzi, spero di morire sul palco. Addirittura? Beh, speriamo di non morire. No, però morire questa più... qua è una cosa che molte persone... È interessante questa cosa. Cioè tu, la cosa che speri in realtà è crepare sul palco, diciamola tutta. Sì, la chitarra la suono ancora in maniera velocissima. Ma da quanto tempo è che fai in concerto, però? No, l'ho fatto recentemente. Senti una cosa, ma io voglio capire una cosa, ma ancora ce l'hai la voce? Cioè la voce, facci sentire un po' la voce, tirati un po' su, facci sentire un po' la voce forte di Richard. Fermo! Ma che è successo? Oh. Fermo! Ma che è successo? Oh, Madonna! Ma che? Scusami, amico mio, ma tu stai un leone, stai. Ma non c'hai problemi cardiocircolatori, scusa, Richard. Sì. Ho capito, però. Ma come sì? Riesci a urlare. Hai fatto un boato e poi dici sì, tranquillamente. Hai fatto un boato pazzesco. Si sono spaccate qua. Mi sta chiamando Radio 24, la Confindustria. Si sono spaccati i vetri della Confindustria qui. Sei spettacolare. Ancora c'hai una forza pazzesca. Dillo a tutti. C'ho una forza incredibile dentro di me. Incredibile, altro che. Io ti ho visto malissimo in quel filmato. Mi confermi che sei un leone, in realtà, o no? Il fatto è questo. Sì, dimmi. Il fatto è questo, sentiamo, va bene. Che praticamente ho la forza di un leone. Appunto. Sì, dico, questo sì, capisci. Questo sì. Però sono malato di cuore. Lo so, però amico mio, ti fanno male pure queste urla, no? No, invece. Ma che si urla così, ragazzi? Ma è incredibile. Ma dice che le cure costano troppo, no? Cioè. Sì, le cure non riesco ad affrontarle proprio. Quali cure? Cioè, di che cure hai bisogno? Di che medicine hai bisogno? La lista delle medicine. La lista? Lungo. Sì, pia lista, sì. Boh, francamente. No, aspetta, vediamo la lista. Fa un urlo così. No, però. Sì, ho capito, però, ragazzi. Ma è roba incredibile. Comunque. Sta male. Boh. Vabbè. Beh, non ci credere. No, lui non ci crede, no, Parenzo non ci crede. Per carità, amico mio. Io ci credo. Sì, ma uno che fa un urlo così, secondo me, comunque bellissimo, trovo super. Senti un po', ma ho visto che fumi, riesci, il medico ti dice che puoi fumare? Io fumo quanto mi pare, faccio quello che mi pare, io mi ritengo un uomo completamente libero, non me ne frega un cazzo bravo. Di quello che dicono i medici. Bravo. Dunque tu quante sigarette fumi? Comunque ti faccio la lista delle medicine. Fammi la lista, sì, fammi la lista. Allora, Aldactone. Sì. Cardioaspirina. Sì. Lasix. Sì. Lopresor. Sì. Pantroc. Sì. Tavor. Sì. Zestril, sì. Alzon. Sì. Quant'è tutto il conto totale? Non lo so. Non lo sai, più o meno? Più o non meno. Lo so. Di quanto avresti bisogno al mese per campare bene, diciamo, per stare decentemente? Cioè, così facciamo un po' il conto, chi ci ascolta magari può dare una mano. Direi 3.000 euro al mese, sì. 3.000 euro andrebbero bene, diciamo, no? Sì. 3.000 euro andrebbero bene. Senti una cosa, ma quante fisiche sigarette fumi al giorno? E che te frega? Ma è così, che te frega di quante sigarette fumo al giorno? No, t'ho visto con le mani che erano molto piene di nicotina, dunque sicuramente saranno un pacchetto e mezzo, due addirittura. Ma giustamente, a te non te frega un cazzo, vuoi morire sul palco, che te frega di fumare? Hai detto che vuoi morire sul palco? Comunque, l'appello l'abbiamo fatto, 3.000 euro al mese, io spero ma che... Ma che appello è, ragazzi? Ma che vuol dire fare l'appello in radio per dare dei soldi? Ma ragazzi... Vabbè, ma sta messo male, visto? Dice che non arriva la fine... Sì, scusa, okay. in questo momento qua, in banca, nella tua conto corrente, a meno che io non c'è... Io in banca non ho niente, ti ho detto! E tua moglie? Non falla arrabbiare! E mia moglie non c'ha un cazzo! Manco lei! Passamela un secondo, Richard, scusami. Ti devo passare pure mia moglie? Passami un attimo, Ester. Sì. Pronto? Ciao Ester, scusami. Ciao, caro. Com'è la situazione? Allora, tu in banca quanto avete voi? Allora, in banca abbiamo, penso, 7-8 euro. Eravamo delle persone molto benestanti, stavamo molto bene economicamente. Dove sono finiti tutti questi soldi? Lui ha detto, sì, vabbè, la vita costa, un sacco di soldi avete buttato via allora. Ma non è che li abbiamo buttati via, è che abbiamo fatto degli investimenti sbagliati, abbiamo comprato delle cose che non dovevamo comprare, tipo vestiti o troppe chitarre. Quanti soldi avete buttato via? Sì, ma no, non erano tanti soldi, non erano tanti. Non erano tanti, No, non erano tanti. Non è che stiamo parlando di cifre iperboliche. Vabbè, un milione, diciamo. No, assolutamente. Molto di meno. Vabbè, passamelo per un saluto finale. Ciao, amica mia. Ciao. Ripassamelo un attimo così lo saluto. Te lo ripasso, sì. Grazie. Che situazione, ragazzi. Sì, dimmi. Caro Richard, grazie di tutto. Io spero che tutto si sistemi, tutto vada a posto, tutto regolare. Io vorrei salutarti perché io so che tu sei vivo. Sì. Salutami a modo tuo, col tuo classico urlo alla Richard Benson. Vai, Richard! Basta, sta male. Mamma mia. Ma siete pazzi, ragazzi. È vivo, altro che morto. Ma è vivo. Ma è vivo. Sono vivo. No, Ma quante scusi, sigarette fumi? Dimmelo! Quante? 50. Ma sarà mica normale, tre però, ragazzi. Tre pacchetti al giorno. Sì, però, ragazzi miei, fidati ti saluto, di me. Ti saluto, no, ti saluto. Ma non basta fare sti urli, ciao, basta ciao, fare sti ciao, urli. Ciao, Richard, numero uno, ciao. Ciao. Oh Giuseppe, oh David, chi è? Un parla di chiuri politica, ora parla di seminchiata, la casa di Celentano, la signora, Mercù, Mercà, Mercazzo. Oh, avete a parlare di politica, PD in caduta libera, non ne parlate che è in caduta libera. Renzi è morto, Consip, chi è? Consip, Parenzo, Consip, sai cos'è Consip? Se c'era ragina e su scandalo, Parenzo, ci cagavi la minchia, ci cagavi sapendo per quanto, ora, silence, è vero, pare, silenzio, non se ne parla, Consip, Tiziano Renzi, il babbo dell'amico tuo, Matteuccio, nella merdaccia, Parenzo, a parlare di cose buone, non di cose che ti commenta a te, Parenzo, Consip, parlate un po' di Consip, dai, dai, dai, dai, Romeo. Romeo, ministro Lotti, ma cazzo, ma ne parlate di questa cosa o no? Oppure è un tabù, tabù, tabù. Siete miei da siete, merda concienzata, avete a parlare di cose che avevo con me a buaggi, indegni di merda, bastardi maledetti massoni schifosi, massoni di merda. Pronto. Vai, sfogati, sfogati. Forza. Forza. Pronto. Sfogati, sì. Sfogati, vai. Eccoci qua, dai. Grillino. Vai, Grillino, sfogati, vai. Grillino. Ma io stavo dormendo, ma capite? Ah, stai dormendo alle 6 di sera. Alle 6 di sera come dorme. Mai? Grande lavoratore. Sto riposando, ma così Cruciani se ne scassa la minchia mentre noi, ma sì? Cruciani. E anche Parenzo, amico mio, certo. Parenzo, che piacere sentirvi. Ben svegliato, amico mio, ben svegliato, Andiamo a lavorare. Una cagata la minchia, mi hanno fatto il riposino pomeridiano, cacchiano data. Pomeridiano. Scasso tutto. Ma che scassi tutto dove? Scassi tutto dove? Culo, Cruciani, ma dove? Lo sai che ti rompe il culo, Cruciani, io sono Grillino e voi Grillini e noi Grillini a voi ve la mettiamo in culo. Sì, ma devi stare bello, tranquillo. Bello, mi hai fatto svegliare, bella gay stivo, mi hai fatto svegliare, io stavo ruimendo. Ah, ma tu sei anche iscritto ai 5 Stelle, cioè sei Grillino tutto di un pezzo. Sì, eh? Sì, io faccio votazione online, io sono Grillino tutto ad un pezzo. Bravo, bravo, bravo, bravo. E minacci la gente così, ti vengo lì e ti rompo un culo. E incazzo tutto, ma è una cosa così, gioia. Lo sai che non ti sfiorerei neanche con una rosa. Ah, nemmeno con una rosa. Apparenza. Soprattutto apparenza. Sì, bene, soprattutto bene, apparenza. Schiavi, com'è che c'hai svegliato, detto? Schiavi, siete, no? Ma è normale con chi siamo si fa il riposino pomeridiano e voi telefonate così a tompolata, come si dice a Palermo. A tompolata. Ma arriva la chiamata. Mamma mia, ragazzi, come sei messo male. Come sei messo male. Comunque hai la possibilità. Tu sei messo meglio di me con quella faccia bella che c'hai. Comunque vero? Hai la possibilità di sfogarti. Io posso qui. Parlare perché conosco il tuo viso. Sì. E so quello che dica. Hai una faccia di minchia proprio. Lo so. Va bene, d'accordo, una faccia di tu minchia. Tu la faccia non la conosci, quindi non puoi parlare. Io te lo posso dire per scelta che è proprio una faccia di minchia. La grande analisi politica del violento a 5 Stelle da Palermo. Com'è che ti chiami di nome? Non ti interessa un cazzo. Ma interessa invece. No, non te lo dico come mi chiama. A me mi interessa che ti chiami Giuseppe Cruciani e che ha la faccia di cazzo. Sì, va bene, d'accordo. L'amico tuo Parenzo ha la faccia più di cazzo della tua. Bene, evviva, mi saluti a casa la sua bella famiglia, Che lavoro fai, scusa? Per dormire. Io non lavoro, sono disoccupato. Grazie ai politici amici tuoi sono disoccupato. Beh, io credo che sia più colpa datti sua da che fare, dei politici. Amico mio, datti da fare! Trovati un lavoro, datti da fare, non si dorme alle 6 di pomeriggio. Uno che è disoccupato alle 6 di pomeriggio non dorme. Tu però la mi vuoi provocare, No, mi sembra la realtà io questa, la realtà, però. Stai dormendo, sono disoccupato. Può essere pure che io ho finito di lavorare, che ne so, alle 4. Ma tu l'hai detto. Nero, hai detto tu che non lavori. Sempre per i politici, amici tuoi. Ma che c'entrano i politici? Quindi c'entrano i politici. In nero. Ma che c'entrano i politici? Ho finito di lavorare alle 4, un lavoro duro, perché stamattina mi sono alzato alle 6. Sì, e non sono cazzi tuoi. Sì, certo. E poi mi stavo facendo il riposino, perché alle 4 ho finito, mi sono mangiato una cosa e mi sono riposato. A differenza tua e dell'amico tuo... che in vita vostra non avete mai lavorato, avete solo leccato il culo, avete solo leccato il culo, avete i galli nella lingua perché leccate il culo, leccate il culo, tu e l'amico tuo, leccate il culo, questo sapete fare. Però è bello questo linguaggio dei 5 Stelle, è interessante. Io il culo in vita mia non ho mai leccato. Sì, interessante, sì. Però. È bello. E tu lo sai benissimo. Questo linguaggio, ma io che ne so, io mica la conosco. C'era quello lì al potere, non parlavate mai contro quel massone di merda di Renzi. Sì. Ma è massone, massone non risulta che siamo solo per i coglioni solo ai grillini. Ma e i grillini ve la metteranno nel culo. Ale. Pronto? Lennox? Sì. Senti, ma siamo i trogloditi. Ah, ancora tu sei? Sì, sono io, certo, sono Cruciani. Ciao, come stai, Lennox? Ciao, come stai tu, caro? Ma non c'è male, non c'è male, non c'è male. È il troglodita numero uno che parla qui, il troglodita numero uno. Il due, tu sei il numero due, il numero uno sta vicino a te. Beh, non lo so se è numero uno o numero no, due. No, quello che lei chiama troglodita non ha nessuna intenzione di parlare con un nazista, con uno che si professa nazista, nessuno. Hai detto che bisogna trarre degli insegnamenti che ci ha lasciato, bisogna apprendere da alcuni insegnamenti che ci hanno lasciato il Führer e Mussolini, com'è possibile? Sì, certo. Cioè, che cosa ci ha lasciato di buono il Führer? Scusa, se che, te... cosa ci ha, che cosa ci ha lasciato? Ci ha lasciato che dobbiamo mantenere il nostro paese pulito. Pulito, dunque ci l'insegnamento di Hitler è che dobbiamo mantenere il nostro paese pulito. Certo, ci ha lasciato che bisogna aiutare prima chi appartiene alla propria terra e poi magari dare una mano agli altri se avanti. Cioè, prima la razza ariana, diceva Hitler in realtà. No, Hitler diceva prima i tedeschi. Prima i tedeschi. E poi ma insomma è stato dopo si avanza qualcosa. Un bravo, si avanza anche dalle camere a gas, cioè si avanza da sì. Ma le camere a gas che non ha mai visto nessuno. Vabbè, Parenzo, però no, ma Parenzo, io veramente spero campi di concentramento e camere a gas che nessuno ha mai visto. Ma è una roba che non si può sentire, per me, cioè io non parlo con questo. Però oggettivamente questo qua. Io quello che dice questa non parlo e ti giuro. Ti giuro che questa volta mi devi dare il numero e lo denuncio alla procura, che non è possibile Parezzo. Sentire questo. Però allora, scusami, Lennox, come si fa oggi? È l'ultima cosa che faccio, morissi oggi, io ti denuncio. Scusami un attimo, fammi rispondere a quel signore lì. No, no, cioè io non rispondo, non parlo con questo qua. Guarda che tu. Non parlo con questo. Tu, piccolo uomo, tu non hai mai. No, non mi interessa, lei può insultare, ma io ci vediamo in tribunale, io non parlo con lei. Io nel momento che io ti avrò davanti, tu tremerai dalla paura. No, guarda. Lennox, ma non ho capito che fai. Minacci, non ho capito. Non le conviene. Perché tu davanti sei troppo piccolo per stare. Non le conviene. Ma non ho capito, non ma che fai? Minacci? Avanti. Che fai? Minacci? Non ho le capito. Conviene andare avanti. Che fai? Minacci? Io non sto minacciando nessuno. Ma stai minacciando? Allora, non le conviene andare io avanti, guarda. Non sto minacciando nessuno. Tu sai parlare solo dietro un microfono. Ma caro. Che vuol dire? Ma non noi questo facciamo. Andare avanti. Ma non ho capito, stiamo parlando qui, questo facciamo di mestiere. Che fai tu invece? Che fai? Ma tu fai che cosa fai di mestiere? Che affronti la gente a pugni? Che cosa affronti la gente a pugni? Insultate la gente, non parlate. Insultate, hai parlato di Hitler, di camera gas che non esistono, ma non ti vergogni? Porca puttana, ma non ti devi vergognare, ti devi e basta, ti devi vergognare. C'è gente che tutti i giorni vi chiama dicendo che mette la gente nei compattatori, tu vieni a dire queste cose a me. Ma cosa c'entra? Quelli noi gli diciamo che sono dei coglioni, come diciamo a te che sei un imbecille. Cosa c'entra? Sarei un imbecille. Però torniamo agli insegnamenti di Mussolini invece. Il Führer abbiamo detto. Mussolini. Sì. Tu sei fascista, no? Certo. Certo, beh, normale, per carità. Cioè, nessuno, cioè, fascista è una cosa normalissima. Cosa ci ha lasciato di buono Mussolini? Ma penso che di fascisti in Italia ce ne sono tanti. Vabbè, d'accordo, ma cosa ci ha lasciato Mussolini di buono? Cosa ci ha lasciato? L'onore di essere italiani. Italiani. Che faresti con gli immigrati tu? Li manderei a casa tutti. Tutti via. A prescindere. Ma ammazziamone anche un po', scusami. Ma io non so, allora io a me non mi piace ammazzare la gente. No, sei a favore di Hitler, non ti piace ammazzare la gente, per carità. Che faresti, signori Rom? Allora, i signori Rom per me sono come gli immigrati, non dovrebbero stare in Italia, dovrebbero stare a casa loro. Cacciarli via dall'Italia, cacciarli via. Vanno mandati a casa. Vanno mandati. Dunque bisogna ripulire l'Italia da quella che tu chiami, com'è che la chiami? Com'è? Infetta. Perché non ti metti il cappuccio? Hai capito? Perché non ti metti il cappuccio? Quello che dovresti mettere tu dalla vergogna. Perché non ti metti il cappuccio del Ku Klux Klan? Perché i falsi buonisti come voi hanno distrutto questo paese. I falsi buonisti, uno che parla di Hitler e poi parla di falsi buonisti. Io veramente è una cosa incredibile. I falsi buonisti come che dietro una radio. Senti, ma tu poveri immigrati, poverini, li dobbiamo aiutare. Ma guarda, non sono certamente io che dico. Senti, signor nazista, ma tu sei campione del mondo di qualcosa? Perché non ti tolgono quello? Campione del mondo di che cosa? anzi, dovresti fare anche. Dovresti fare campione anche del mondo di che? Di cazzate? Dovresti, di che cosa? Di cazzate. Che cosa credi? Che solo perché tu vai a fare una puntata con il tuo amico lì a Italia 1 a Tichità che ti senti una star? No, ma io non mi sento una star. Sei campione del mondo di che? Credi? Non lo so. Ti dovresti inginocchiare. Ah, inginocchiare. Parli con me. Sì, ecco, eccomi qua, in ginocchio. Mi metto in ginocchio. Mi sto inginocchiando. Stai parlando con un grande professionista, tesoro. Sì, di cazzate, però. Grande professionista di minchiate, sì, certo. Ma te lo viene a dire a me? Ma io te lo sto dicendo, di minchiate, io te lo sto dicendo. Come di minchiate? Cioè, stai dicendo un sacco di cazzate, dunque sei un grande professionista di minchiate. Io sto dicendo tante cazzate. Beh, ciao, amico mio, te le voglio elencare tutte, te le posso elencare tutte? Te le posso elencare? Dai, su Hitler, Mussolini, ci vorrebbe Mussolini in Italia? Secondo te oggi? Sicuramente, eccola già la prima cazzata, ecco l'ultima cazzata, subito, grande cazzata subito, dai. Questa è una cazzata. Senti, ho visto che c'hai delle unghie belle laccate nell'immagine lì che sul tuo profilo Facebook. Sì, caro. Ma certo. Come te le fai? Quando te le pitti? Sta zitto, Parenzo, che tu sei un travestito, vatti a travestire. Parenzo. Ma veramente sta zitto, veramente sta zitto. No, io no, con te, con questo qui non parlo, parlerò in procura davanti al tribunale. Ma scusa, che cosa c'hai? Parenzo, a me mi fai soltanto sganassare da ridere. Ma che cosa no? C'hai? Vedrà quanto riderà quando vedrà la procura che le bussa alla porta con la polizia. No, vedrai quando riderai tu, quando vedrai me. Ferrone. Non vedo l'ora di ricevere, ancora minacce? Ma secondo me non vai lontano, Senti, a campione del mondo delle cazzate, te saluto, ciao, ciao. Stai attento, amico mio. No, stai attento, un corno, che se mi minacci passi guai, capito? Fai bravo tu, Cruciani. No, non ti preoccupare. Io non ti denuncio, ma se mi minacci ti denuncio pure io, capito? Non mi minacciare, capito? Tu con me come se sbatti contro un muro di cemento. Non mi minacciare che non vai da nessuna parte, perché io non denuncio nessuno, ma non mi minacciare che non vai da nessuna parte, fascista de Noantri, ciao. No, io sì che lo denuncio. Nazista de Noantri, ciao. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. La Zanzara. Nel momento in cui entra a casa mia, io ho diritto di fare di lui quello che voglio. Stia a casa sua, io a casa sua non ci vado. Uno che vuole rubare merita di avere qualunque azione per difendere le cose tue. Sei a casa tua, mandiamo uno a casa della Costa Magna, poi siccome, poverino, lui non è armato, la violenta, la tortura, dice, beh, poverino, aveva le sue intenzioni. Difendersi è lecito, non ho detto uccidere. Cosa vuol dire, avvocato, buongiorno? Scusate. E ha fatto poco a uccidere uno solo. Doveva inseguirli e prendere calci nel culo. Sì, ma noi diciamo queste cose, Vittorio, ma poi nei processi... Ma perché ho scusate, nei processi si finiscono quelli che sparano. Omicidio colposo si chiama, omicidio preterintenzionale, omicidio volontario. È l'accusa che sta a priori quello che non è ancora dimostrato. Si vergogni quel magistrato, si vergogni. E impari a rispettare le vittime, beh, gli anziani, le persone che non hanno fatto nulla, a casa loro. Lui ha fatto il minimo che poteva fare, non voleva ucciderlo, ha sparato e ha sparato per difendere se stesso, la sua famiglia e i suoi beni. I ladri vadano per i cazzi loro, vadano a fare un bagno, non vadano a casa altrui, e il magistrato vada a cagare. Come cazzo fa un giudice a dire omicidio volontario? Come fa a dirlo se non contro un cittadino che si difende? Hai visto i limiti? Quello è stato provocato. Potevano essere armati, quello ha sparato per volontà, ha detto per intanto che è partito un colpo, perché è intimidito da una legge che è contro le vittime e a favore invece dei criminali. Per cui pagare le tasse non è che sia la cosa più nobile del mondo, cominciamo a pensare che chi non paga le tasse si difende da uno stato di merda, quello che paga gli aerei ad Alfano. Bene, io con le mie tasse non pago gli aerei ad Alfano. Soprattutto se paghi le tasse per dare lo stipendio ad Alfano, a Verdini. No, cominciamo Alfano, a vedere perché io pago le tasse. Creatore, una domanda. Io pago le tasse per dare dei danari a una quantità di coglioni o far costruire edifici in Monti. Pure pagare i suoi vitalizi, però, Quando ero in collegio mi ricordo che l'unico tema era quello, visto che non potevo uccidere, rubare, era quante volte, voleva dire quante seghe. Allora io dicevo 5, ne avevo fatte magari 3 per avere un buono per le successive. L'unico tema dei preti, nella mia ossessione di collegiale, era la masturbazione. Io sono stato, diciamo, non costretto, perché mi fa piacere avere 3 figli, ma il giudice mi ha condannato a essere padre. Io ero genitore, non padre. I miei figli erano delle madri per me, io potevo contribuire sul piano economico, ma io non ho lo status del padre. Ora, ogni figlio ha diritto a una madre. 2 padri non valgono una madre. Cioè, è meglio un ragazzo che ha 2 uomini che lo assistono, ma che lo hanno adottato, che non quelli che vanno a cercare di inseminare col seme di uno e non dell'altro una donna che è lontana, che per soldi lo fa, e questo anche le femministe lo sanno, e che rinuncia alla maternità, salvo che poi il figlio voglia quella madre, la trovi e la rivendichi. Il bambino è più importante di una coppia di pretenziosi coniugi che hanno bisogno di un cagnolino e lo vanno a far partorire attraverso un percorso. Adottino un bambino disperato e povero del mondo dove non c'è bene, non c'è pane. Se un giorno uno di questi figli che si trova 2 padri cercasse sua madre e andasse a trovarla attraverso un'indagine poliziesca, cosa farebbe? E pensiamo all'uomo più emblematico di queste, non diciamo lotte perché non le fece lui, ma di questa esistenza omosessuale libera, che è Pasolini. Qual era l'unico amore di Pasolini? La madre. Posso io togliere a un figlio la madre per dargli 2 padri? Posso io, giudice, dire tu non hai diritto a una madre? Quindi lo trovo una sentenza abominevole in nome di falsi diritti di coppie. Però per me uno che sta con una donna più di 3 giorni è un maniaco sessuale. È un maniaco sessuale. Cioè, il vero maniaco sessuale è il monogamo. Quindi sì. Questa mia vita, che è la stessa concezione che di Pasolini. Non mi sono mai sposato perché non ho mai dubitato che l'unica donna che poteva perdonarmi fino in fondo era mia madre. Con le altre ho avuto rapporti molto, anche non ho mai litigato alla fine, veramente, se non con Demetra Hampton, che stette con me 17 giorni, io al 17esimo mi sentivo, mi sembrava un'eternità, non so. E quindi non riuscivo più neanche a avere rapporti sessuali con lei. Guardavo la televisione e dice: ma perché guardi la televisione? Dico: quelle sono delle news che ti conosco già. Viene in mente Pasolini. Io ho molta affinità con Pasolini sul piano sessuale, perché io rispetto al mondo femminile sono come lui rispetto al mondo maschile, cioè vorace di corpi, di donne, per rapporti anche veloci che finiscono subito, che nel mondo omosessuale sono normali. Nel mondo eterosessuale le donne sono talmente faticose, te la danno con molto ritardo. No, ma noi distribuiamo preservativi per che cosa? Per usarli nelle offerte di prostituzione all'interno di quei circoli. Quindi un circolo gay ha il vantaggio rispetto a qualunque circolo libero in cui i cittadini si riuniscono come nei circoli gay. Che nel circolo gay il pompino è assistito. Non si era mai visto che l'UNAR, per combattere le discriminazioni, finanziasse i pompini. Finanziasse i pompini, questo è il dato di fatto. Il pompino è libero. Il pompino è libero. Il pompino è trasversale. Il pompino è per tutti. E il pompino è sia eterosessuale sia omosessuale. Tipi da zanzara. Alberto, vai. Allora, io ogni tanto, a seconda di come va il lavoro, affitto una signora prostituta per vederla insieme a mia moglie. Questo è buono, cosa vuol dire? Questo è buono. Cosa vuol dire? Intanto la parola affitto riferita a una persona e non a una casa o una macchina. Quale parola devo prendere, signor Parenzo? No, ma infatti cominciamo col dice vado da una prostituta, mi metto d'accordo con una signora prostituta, ecco, la quale per una cifra che io ritengo discreta, 400 euro ogni tanto, la vedo con mia moglie, arriva al motel con Mercedes, mi sembra una persona tutt'altro che schiava, ma magari addirittura se a sua moglie se a sua moglie piace così, ragazzi miei. Fate sesso in tre in pratica o no? O fanno io sesso lo loro? Faccio solo con mia moglie per accordi nostri, però mi piace vedere lei, mi piace vedere loro in un motel qui. Ti a piace Milano. Vedere loro che lesbicano così alla grande? Mi piace vedere loro, sì, questo. E poi dopo io faccio con mia moglie per accordi che abbiamo. E tua moglie è praticamente bisex in sostanza? Sì, sì, sì, sì. Ma tu affitti sempre la stessa oppure cambi? Negli ultimi anni quasi sempre la stessa. Quasi sempre. I colori, per cui non sono neanche la stessa. Oh. Ci è piaciuta entrambi, un bel modo di fare. Che fanno insieme sua moglie e la nera, diciamo la black? Beh, adesso quello che possono fare due donne non avendo, immagino, non anche avendo il pene fanno quello che possono fare due donne. Utilizzate anche strumenti? No, utilizzate... No. Molto probabilmente mia moglie vorrebbe un maschio, ma io non ho coraggio di avere concorrenti. Mi fa un po' impressione l'idea di vedere un uomo davanti a me, sono vigliacco io. Riccardo, ciao. Ma chi è quel Riccardo lì? Penso di sì. Quel Riccardo, mamma mia, si capisce già dall'inizio. Mamma mia, lui è il festival dell'ipocrisia. Su chi, Riccardo? Su Trump è il festival dell'ipocrisia totale. E tra l'altro è una cosa che Obama aveva fatto anche in passato, sia pure in termini diversi, poi si metterà Parenzo a fare il costituzionalista, non si mette a fare nessun costituzionalista americano. No, però è diverso, perché alla fine ha fatto pure Obama, tale quale. È invecchiato, però lo fa Trump e Hitler. Ma perché dici che è invecchiato? Invecchiato ormai, si è spento. Ma perché sono invecchiato? Ma sono invecchiato perché non ti mando a fare in culo? Ma non ti mando a fare in culo perché mi fai pena. Cioè, invecchiato. Sono invecchiato perché non sbrocco, non ti insulto. Meglio, invecchiato, ormai è stanco anche lui. Ormai è stanco. Hai perso anche la credibilità, capito? Incredibilità. Cioè, sta parlando Stiglitz. Il grande economista Stiglitz e Riccardo da Roma. Manco quello. Hai visto chi è che si è mostrato offeso? Google, sì. Zuckerberg, la Apple, Jeff Bezos, cosa vuol dire? Le celebrities di Hollywood, sì, tutta questa gente qua fanno ride, fanno ride. Questa è tutta gente che ha ben altri problemi, capito? Non è della working class, non è gente che va lì a farsi il culo 8 ore al giorno, 12 ore al giorno. Questa ancora è tutta gente alla Parenzo, casculato, parca al lunario, così, dice quattro cazzate, no? E sta lì a mangiare il pata nigra, a casa della contessa. Sì, vogliono appena tutto questo, come di parlare, mi porta una bibita ghiacciata, detto, per cortesia. Che la Silicon Valley ci sono le persone più intelligenti. Beh, sicuramente. Cervelli non laureati, certamente. Mi porti per cortesia un Vladimiri? Fammi portare la razza ariana intelligente, quella no. Ma che vuol dire sono intelligenti? Essere contadini e ignoranti ed essere intelligenti ed avere studiato al MIT, al Massachusetts, e lavorare alla Silicon Valley ed essere dei coglioni. Si può essere dei muratori. Hai fatto la tua cosa, portami un Vladimiri ora, però, per cortesia. In coppia con Cruciani ed essere dei perfetti coglioni. Mi puoi portare una bibita ghiacciata, per cortesia? Ma l'hanno fatto le Hillary, le Killary, gli Obama, i globalisti, l'Europa della America è sempre a rimorchio. Hai vista la culona oggi, no? La culona che ha detto è scandaloso quello che ha fatto Trump, la nostra tradizione è contro. Veramente mi pare che la tradizione tua, che c'ha la foto del tuo nonno nazista ancora sul comodino, fosse quella di mandare i carri armati in giro a zerena a tutti, no? Fino a prova contraria. Cioè, quelli hanno tutti le foto dei nonni e dei bisnonni di quelli, stanno tutti con la divisa, tutti col braccio alzato, non mi venite a dire cazzate. Poi vado in Germania, io ogni anno vado in Germania per lavoro, ci vado tutti gli anni per un breve quale periodo? Ma in Germania il nazismo. Ma che cos'è? E chi lo conosce? Non è mai, ma questo non sa nulla, non sappiamo neanche tutt'altro. Cosa sia. È punito per legge. Ci sono delle leggi severissime. Somaro, don Somaro. Ma cosa allucinante, allucinante, guarda, allucinante. Ciao Riccardo, ciao, ciao. Tutta importanza del cazzo che gli è stata data, che gli dai, cruscia, te tieni buono Parenzo, avete rotto il cazzo, faccio bene io che non vi sento più, stasera sono capitato per puro caso, come ieri sera, hai capito? Fatene a fanculo, andate a morire ammazzati tutte e due, sta azzardando a chiamarmi. Che ve denuncio di mortacci vostra, salvanno te di tutti, salvanno io. A te Crucia, meno che a quell'altra merda. C'ho come l'arabi, gli ebrei sono come gli arabi, sono arabi. Non lo vedi? Ma non lo vedi? Ma non lo senti a Cruciani? Ma vaffanculo a te qua a merda di Parenzo e a te quell'altra a merda di Rabbino. Ma vaffanculo tutti e tre annate. Pronto? Sono il Rabbino capo. Ti ho detto che non mi devi da chiamare, non mi dovete chiamare. Ma scusa, perché? Ma che male ti abbiamo fatto? Perché no, non mi dovete chiamare, perché proprio state proprio scendendo, cioè non è che siete stronzi, voi siete diventati proprio diarrea. Ma diarrea, ma che diarrea? Diarrea, che? Sì. Ma perché è? Sì, perché sì, beh, non me lo fa manco sentire quel testa di cazzo ebreo. Ma perché intanto... fanculo Sid, sei come il bradipo, sei come il bradipo, eccolo di... qua. Sì, sei come il bradipo con sì? Quell'occhio a palloncini, sì, quella... quello dell'era glaciale, scatta sì. L'acquerelina, scatta l'acquerelina, ma me fai una pippa proprio, Parenzo. Ma ricordati una cosa, lo dirà Parenzo, davanti ai magistrati, io, ma che davanti al tribunale, paura. Foro competente tribunale di Roma, sì, ma non ho sì, capito, perché c'è... ma non ho capito cazzo, ma perché c'è... ma perché ce come l'hai tanto detto, con professore, noi? Scusi, perché non ce l'hai tanto con voi? Perché fate proprio schifo, fa proprio schifo. Ma perché? Perché? Ma schifo fa lei, ma come si permette? Ma come so senti più, vedi, ma schifo guarda, fa non lei. M'ha chiamato. Ma ogni giorno trovo 3-4 messaggi, non ci senti più, ma che cazzo no, dici? Ma io ma che, ti ho rimandato un altro messaggio l'altra sera. Ma io voglio capire perché ce l'hai con noi, spiegami perché ce l'hai con noi. Perché non mi piacete più, vabbè, non ma mi quello è un altro discorso. Chi se ne frega, ma chi se ne frega, meno male. Allora, siete due pezzi di merda. Allora, tu sei una saluti merda. A tutti a casa. E quello è una... quella è una diarea. Eccolo. Lui che non ci stanno i rabbini che sono pedofili. Bello se... mio, se me mettessi a dire quello che so io. Seconda, ma che sa lei? Ma lei non sa neanche... E tutti gli ebrei. Ma lei non sa ma neanche quando è nato lei. Te devi tassacita, terza Parenzo. Querela non per diffamazione. Siamo a tre. Siamo a tre. Quattro querele. Quattro querele. Siamo a quattro. Ti busso dietro una spalla, Parenzo. Come ti bussi dietro una spalla? Che vuol dire? Ti busso dietro una spalla. E che siamo fai minacci? Che fai minacci? No, non minaccio ti aspetto, un cazzo io. Ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto. Sei querele, sei querele, sei querele. Siamo a sei, sei querele. Ma non ho capito, scusami, che è successo? Spiegami che è successo, perché fai così? Sei querele. Ma che ha fatto? Che ha fatto? Sette querele. Sette. Ma perché? Spiegalo. Sette querele. Spiegalo. Spiegalo. Otto querele. Siamo a otto querele per diffamazione. A 10 ci vediamo in tribunale. Ma ti aspetto qua. Ma dove stai qui? Ci vediamo in tribunale. Che lecca culo che sei, Parenzo, che lecca culo che sei, ma vaffanculo. Parenzo e la Chieng, una coppia abominevole. Solito Parenzo buonista, io voglio vedere se arriva a casa tua uno zingaro, un palermitano, un bareso, chi che sia, hai capito? E ti sfonde, poi vediamo un attimino cosa succede, Parenzo, ma va a cagare, va. Bruciani, sei veramente un pezzo di merda, di quelli grossi, lunghi, larghi che escono fuori dall'acqua del cesso, e per questo io ti amo, per questo io ti amo. Cruciano, ma tu ti rendi conto delle stronzate che dici dalla mattina alla sera? Ma vaffanculo! Parenzo, ma tu quanti migranti sfami con i tuoi stipendi? Diccelo, dai. Diccelo, se, invece di fare il finocchio col culo degli altri, diccelo. Datemi un abbraccio, dai, datemi un abbraccio. Datemi ancora, un abbraccio. Siamo abbracciati. No, voglio adesso sentire schioccare, schioccare, è un simbolo. Schioccare le guance, cioè, quando quel la signora Chieng e Parenzo. Ah, bellissimo. E questo è il mio. Vabbè. Oh, il bacio in diretta dalla signora Chieng e il signor Parenzo. Scusami, scusami, adesso. Parenzo, che bel separietto questa sera con la negra. Perché non ve ne andate tutte e due in Congo tra i gorilla di montagna? E quello è il vostro posto. Sei un nano e una vergogna per la razza bianca. Forza Parenzo, sono invidiosi di te. Forza, forza David, siamo tutti con te. Perché? No, ragazzi, perché mi dici? Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare. Ma che c'entra? Io non faccio la spalla dei pagliacci. Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose? Parliamo della droga. Siete due delinquenti. Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma che droga? Ma quali spacciatori? Ma che sei pazzo? Ma che sei pazzo? Noi spacciatori, legalizzazione. Ma richiamalo subito. Ma quale spacciatori? Ma che sta scherzando? Ma che scherzi, spacciatori! Pronto? Maurizio, ma che sei impazzito? Che spacciatori? No, no, ma rotti i coglioni, non mi stai facendo parlare. Ma siamo un rapporto ma spacciatori! Leale. Ma spacciatori, ci hai detto spacciatori! Siamo spacciatori, hai detto! Ma che sei impazzito? Sì, perché propaganda della droga e quindi non ma che propaganda della droga? Ma perché essere a favore della legalizzazione? Parlare. Essere a favore della legalizzazione significa propagandare la droga, ma che certo, dici? Certo. Ma non è vero, dai! Certo. Io certo sono a favore della legalizzazione. Ma guarda, siccome non fate parlare, non è corretto. Sì, ma non possiamo scontrarci sui dati del Colorado, capisci che è una follia? Scontrarci su. È una follia. La verità è una follia per voi. Ma qual è la verità? Spiegami. Ma qual è la. Dimmi, spiegami qual è la verità. La tua verità. Qual è la verità? La verità. Mi fai parlare o no? E dai, forza, dai, dimmi. E stai zitto, però. Ho capito, ma se tu non parli. Allora, negli Stati Uniti dove è stata introdotta la legalizzazione, sono aumentati i consumi di cannabis e anche gli incidenti stradali collegati. Ma è da verificare. E vedi che non fai valore. Ma non è vero! Ma cosa mi chiami a fare? Sei un bugiardo! Ma non è vero questa cosa qua! Ma perché? Un miserabile cialtrone! Ma perché? Ma perché? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, libera la voglia di fare.